Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori. Allora, cominciamo subito con le presentazioni, perché in questo orario solitamente sentite cose diverse. Io sono Alessio Maurizi e in questa veste si può fare l'attualità anche d'estate. Vi terrò compagnia fino al 29 agosto, già, perché la zanzara si interrompe, le zanzare, Cruciani e Parenza sono a fare le meritate vacanze. Queste le novità, alcune, diciamo le cose che non cambia il fatto che parleremo d'attualità, avremo tanti spunti, tanti ospiti per parlare delle notizie di giornata. Oggi naturalmente l'attesa per la sentenza al processo Mediaset della Cassazione, l'Italia col fiato sospeso. Non cambia l'attesa per i vostri interventi al numero verde 800 24 00 24. E poi c'è anche l'SMS 349-238-6666, siamo su Facebook, si può fare trattino Radio 24, siamo anche su Twitter, si può fare 24, faremo il possibile per inondare l'universo di notizie e di informazioni. Ripeto, numero verde 800-24-0024. Oh, si può fare l'attualità anche d'estate, metteremo anche un po' di l'ingrediente, diciamo, personale in questa cosa qua, perché si può fare, l'avete forse sentito il sabato e la domenica, con le buone notizie, diciamo noi, le nuove tendenze che ci salveranno. Allora vi promettiamo che prima dell'uscita da ogni pausa pubblicitaria, prima della fine del programma, sentirete sempre una buona notizia, così per ragionare e provare a ragionare anche su questo, visto che con la cronaca normalmente parliamo di tutto quello che si dovrebbe fare, no, nell'economia, con la crisi, con la politica, e non si riesce a fare. Allora noi è da un po' di tempo che a Radio 24 nel weekend diciamo: ma perché non si può fare? Noi abbiamo scoperto tante cose che funzionano, che si riescono a fare. Questa la chiave. Però mi raccomando, 800 24 00 24, come ogni sera dalle 18 alle 20:30, questo è l'orario estivo, si interviene in diretta, perché questa è la trasmissione degli ascoltatori. Poi un'altra novità è questa: c'è in studio con me Carlo Gabardini. Buonasera. Attore, autore, comico, non solo, olmo di Camera Caffè. Va bene, diciamolo. Vai, ricordo, insomma, twittatore folle, non so perché lo seguono in quanti follower hai, Carlo? 24.000. Insomma, un bel numero, quindi assolutamente. Qual è il nome, ricordiamolo? Carlo Gabardini. Magari ci propone qualcosa al momento, il nostro abbiamo detto, si può fare 24. Carlo, che sarà in studio con noi, così ci siamo conosciuti quest'estate, abbiamo detto perché no, si può fare, proviamo, vediamo. Ci porta un punto di vista diverso, o forse no, non lo so. Ma chi lo sa, però io sono molto molto contento. Intanto ti ringrazio moltissimo, perché il mio sogno è quello di fare radio, e quindi ne sono felicissimo. Intanto abbiamo realizzato questo piccolo sogno, esatto. Spero che gli ascoltatori gradiranno. È la prima delle buone notizie, direi. Se no sarai cacciato fuori subito. Se assolutamente. Prestissimo, se non è gradito. Sono disposto, anche fra un minuto. Anche fra un minuto, no, beh, ti diamo il tempo almeno ad arrivare fino al traffico, 18:15. Adesso invece iniziamo, 800 24 00 24, il numero verde lo ripeto ancora. Cominciamo con i titoli di Sky TG24. Sono 38 i morti accertati nell'incidente del pullman sulla A16. 10 feriti, 2 bambini sono gravi. Aperta un'inchiesta per strage, omicidio colposo plurimo. Ci sono già indagati, dice il procuratore di Avellino. Il verdetto della Cassazione su Mediaset non prima di mercoledì, ma già 24 televisioni hanno chiesto la diretta. Letta non teme contraccolpi dalla sentenza, non ho paura, dice, l'Italia è più stabile di quanto ci si aspetti. Papa Francesco è rientrato in Italia dal Brasile, lo IOR deve essere trasparente, ancora il mio no è a ogni lobby. Grande caldo resiste al centro-sud, ma al nord arriva il maltempo, nubi fragi in Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. È un bottino record quello del furto di gioielli all'Hotel Carlton di Cannes. La polizia parla di 136 milioni di dollari. Questa sera alle 19 in diretta su Sky, nuovi calendari della Serie A. Già nella prima giornata sarà possibile un big match. Siamo dentro il giorno dei giorni. conosciamo molto bene la vicenda, conosciamo bene il presidente Berlusconi, siamo assolutamente certi della sua estraneità e quindi siamo certi che la Cassazione non potrà che assolvere il presidente Berlusconi. Tienimi sulla luce, fatti vedere meglio. Il sostegno leale e convinto del presidente Berlusconi a questo governo, proprio per la drammatica situazione economica che il paese sta vivendo, non è messo in discussione. Così come non vogliamo prendere in considerazione minimamente l'idea che la Cassazione lo possa condannare. Come ci frega l'amore. Il giorno del giudizio è quello che ci sarà alla fine dei tempi, e quando il Dio ci metterà alla destra i buoni e alla sinistra i cattivi. Questo è un giudizio di una corte di Cassazione, e prendiamolo per quello che è. La Russia scherza, però non è che c'è molto da scherzare, eh? Insomma, l'Italia ha col fiato sospeso, il PDL ancor di più, il suo capo storico domani, anche se qualcuno dice che potrebbe slittare questa sentenza della Cassazione. Che ricordiamolo, c'è la questione dell'interdizione dai pubblici uffici, per cui Berlusconi dovrebbe dimettersi anche da senatore. Sentiamo qualcuno che è un po' meno tranquillo delle voci che abbiamo sentito sin qua, l'ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini, quella che tra l'altro dovrebbe forse ancora, non so, magari mi sono perso io un pezzo, spiegarci i famosi 75.000 euro l'anno per il fotografo personale, la Polverini, questo. Però lei dice: è difficile rimanere calmi se la sentenza sarà di condanna. Sentiamo. Penso di sì, no? Siamo tutti preoccupati, comunque vada, siamo in attesa di conoscere questa sentenza, questo si parla di un rinvio, vediamo. Sicuramente sarà difficile, no? Mantenere la calma in una situazione in cui Berlusconi venisse condannato definitivamente. E sentite cosa si becca da Annarella, nonna Annarella, quella che sta davanti al Parlamento, no? E le spara ogni volta sempre più grosse, sentitelo, con la Polverini a fianco. C'è la sentenza della Cassazione. E chi se ne frega, tanto oramai i soldi ci stanno più, se sono fregato tutto non se ne parla più. Quindi Berlusconi lo condanna, non te ne frega niente. A me mi frega più niente. Ma di nessuno. Mi dispiace. Stavamo meglio niente. In tempo di guerra. Ma che come mai senza Berlusconi? Ma vaffanculo. Non gliel'ha mandata a dire Annarella, adesso è lì per quello, anche per fare show. Sentiamo chi invece ha la vista lunga, Filippo Facci, dice: Libero ha pubblicato alcune indiscrezioni, insomma il futuro è senza Silvio ma con un altro Berlusconi. Io sono abbastanza certo che la discesa di Marina Berlusconi sia in fase di predisposizione. Libero ha avuto qualche informazione, assicuro, abbastanza piuttosto fondata sul fatto che possa considerare come possibile Berlusconi quello di avere non tanto una grazia ma insomma una serie di prerogative. E questa insomma è l'attesa della sentenza. Su Twitter Carlo Gabardini, c'è qualcosa? No, perché, no. Su Twitter no, di Berlusconi direi di no. Niente. Beh, oddio, sì, ce n'hai tantissimo. Ma non, sì. non è il trend. Diciamo di roba topic, fresca. No. Cosa sono i topic trend adesso? Irpinia, l'incidente, certo, Irpinia, il pullman. Poi molta roba di One Direction. Sempre One Direction. Perché? Sì. Beh, perché hanno un po' occupato Twitter, i fan, è bellissimo, c'è questa faida fra i fan di One Direction e quelli di Justin Bieber, che si massacrano e praticamente decidono loro quale è il tema di cui si deve parlare ogni giorno, quindi non so se è il compleanno di uno degli One Direction oppure se Justin Bieber si molla con la fidanzata, è un po' quello che diventa. Il problema è che fanno degli hashtag che sono lunghi, praticamente... Sui 140 caratteri che ci sono, loro fanno un hashtag di 138, quindi il massimo che si può scrivere è tipo sì o no, perché ne avanzano solamente spazio. Due. Esatto. Se lo scopre Berlusconi, vuole entrare nei One Direction per essere anche lui protagonista. Assolutamente. Allora, adesso facciamo la prima pausa. Come promesso, prima una buona notizia. And now the good news. È proprio vero che i soldi non fanno la felicità. Giuseppe Stallone, del bar Persefone di Milano, è stato uno dei primi in Italia a togliere le slot machine dal suo bar, rinunciando a dei bei guadagni. Non ne poteva più di vedere i clienti con l'aria triste. Tristezza, per favore, vai via! Si può fare l'attualità, anche d'estate. Eccoci qua e salutiamo, ci ha raggiunto, anzi noi lo abbiamo raggiunto nelle aule del Senato, l'onorevole Carlo Giovanardi, buonasera. Sì, buonasera. Perché nonostante quello che la gente pensa, insomma, i parlamentari ogni tanto sono a lavoro, no? Sì. Giovanardi. Giovanardi, non ha colto la provocazione. No, era una battuta. Siete in Senato perché c'è aula, insomma, c'è lavoro, c'è fermento nonostante siamo a fine luglio. Cosa state votando? E adesso siamo sul decreto che riguarda varie cose. Sostanzialmente sono l'IVA, sì, misure finanziarie urgenti, occupazione giovanile, coesione sociale, sono una serie. Ecco, tutte insomma le cose su cui c'è molta attesa da parte delle persone. Ormai sono sempre di più quelli che dicono basta parlare delle cose, delle sentenze su Berlusconi, dobbiamo parlare del paese vero. Però domani dovrebbe esserci questa sentenza importante, no? Per anni che dal 1992 che in Italia invece di concentrarsi sulle questioni di governo è sempre questo rapporto magistratura, politica, Parlamento che inquina, destabilizza la situazione e il quadro politico. Magari in Italia fosse un paese nel quale in effetti la dialettica politica venisse... Ma di chi è colpa però, Giovanardi, di questi vent'anni? Cioè, io non c'ho dubbio, poiché ho fatto parte di... già nel 92-94 in un Parlamento dove gli Andreotti, Craxi, Forlani e altre decine e decine di parlamentari vennero distrutti da avvisi di garanzia, salvo per il 95% essere assolti o archiviato, non prescritto, assolto o archiviato, so già come l'intervento dei vari Di Pietro, dei vari De Magistris, dei vari Ingroia si è accostato all'Italia in fasi successive, questa destabilizzazione. Vabbè, Ingroia però all'epoca non c'entrava poco. D'altra parte però è una situazione un po' diversa, no? Ammettere a Giovanardi. Lì erano reati, Craxi disse che insomma quello del finanziamento ai partiti era una cosa che facevano tutti, era un reato commesso nell'esercizio, diciamo, della funzione politica partitica. Quelle di Berlusconi sono cose private, non c'entrano nulla con la politica. Una prassi che coinvolgeva pienamente Occhetto D'Alema, il partito comunista d'allora, che ne uscì completamente esente, mentre i cinque partiti democratici vennero totalmente distrutti, ma non c'era solo il finanziamento. Vabbè, c'erano delle responsabilità diverse, il Partito Comunista non era al governo, il pentapartito sì, però quello che mi interessa è arrivare a Berlusconi, no? Ecco. Andreotti si prese 22 anni per l'assassinio di Pecorelli, se si ricorderà, in Appella Perugia. Ma questo non c'entra nulla, Giovanni, che c'entra Andreotti su Pecorelli? Stiamo parlando... magistratura politica e domani ne abbiamo l'ennesima riprova. Però Andreotti non ha mai scatenato nessuna crociata contro la magistratura, questo sì, Berlusconi invece l'ha fatto. È stato tolto 10 o 12 anni prima dalla vita politica italiana, naturalmente non è andato in carcere soltanto perché era senatore a vita, se no ci sarebbe finito come tanti altri. Vabbè, anche Berlusconi ha l'immunità, da questo punto di vista non gliela lava nessuno. Ma notare che ancora una volta in una situazione di gravissima difficoltà per il Paese, in una situazione di quadro politico particolarmente delicato, siamo qui tutti ad aspettare domani, sapendo che comunque questa sentenza comunque avrà un riflesso sul quadro politico italiano. Quale sarà, Giovanardi, il riflesso dal vostro punto di vista, qualora, perché chiaramente se non succede niente, se la condanna dovesse venire cancellata dalla Cassazione, perché di questo si tratterebbe, di vera e propria cancellazione, allora chiaramente dal punto di vista politico ci saranno le conseguenze, ma l'agibilità politica di Berlusconi resta. Ma con la condanna, cioè l'interdizione, cosa succederebbe in questo caso dal vostro punto di vista? Quello che tutti gli italiani si chiedono. Che la cosa più seria è, come una partita di calcio importante, una finale di un campionato del mondo, io credo che si possa valutare la partita una volta che è stata giocata. Quindi questo di fare il giorno prima tutte le ipotesi, è in caso di assoluzione, è in caso di condanna, è in caso di annullo con rinvio, è in caso che ci sia un rinvio a settembre, mi sembra un esercizio vuoto. Perché Però è stata la sua collega di partito Santanchè, per esempio, a dire potremmo dimetterci tutti. Altri parlamentari hanno fatto diverse dichiarazioni. Sì. A forse deve chiedere alla Santanchè di essere cauta. Io faccio la cronaca. Mi scusi. Nel gruppo parlamentare della Camera, né il gruppo parlamentare del Senato ha mai parlato delle dimissioni di deputati e senatori, e mai nessun deputato e senatore ha segnato le sue dimissioni. Quindi per lei non si deve dimettere nessuno? No, mi scusi, no, sto solo dicendo che quando ho visto oggi la Biancofiore, che dicevo è una cosa totalmente infondata. La Biancofiore ha detto una cosa infondata? Ma scusi, le ripeto, mai il gruppo parlamentare del Senato, mai il gruppo parlamentare della Camera si è riunito per discutere delle dimissioni dei parlamentari e mai nessun parlamentare ha rassegnato in bianco le sue dimissioni. Per una questione di serietà, perché, le ripeto, sarà domani, nel momento in cui ci sarà la sentenza, in cui persone serie e responsabili valuteranno la situazione. Vabbè, qualche previsione si può anche fare, Giovanardi. Per esempio, qualora ci fosse la conferma della sentenza, una cosa che riguarda proprio voi senatori, che ci sarebbe da votare nella giunta per le immunità l'esecuzione di questa interdizione, no? Dai pubblici uffici. Berlusconi dovrebbe dimettersi dal senatore. Allora io le rispondo come ex presidente della giunta, sì, di Montecitorio ed attuale componente della giunta del Senato, che qualora capitasse questa cosa, la giunta si riunirà come si riunisce un tribunale, valuterà che cosa è successo e ne trarrà le conseguenze sulla base dei precedenti parlamentari, sulla base della prassi parlamentare. Ma io non ne voglio parlare adesso, perché parlarne adesso è già mettere il carro davanti a voi, perché domani c'è... Allora Giovanardi ci doveva dire, guardate, non mi va di parlare di questa cosa, perché allora facciamo a meno di fare l'intervista. Sto scherzando, Giovanardi, era una battuta. È chiaro quello che lei ha detto, non vuole commentare una cosa. Se volete poi solo alimentare il dibattito con dichiarazioni incendiarie, non dovevate parlare con me. No, ma a me mi interessava sapere la sua posizione su questo, ce l'ha detta, adesso poi naturalmente si tratterà di aspettare. Sono d'accordo anch'io che non ha molto senso fare delle previsioni, però siccome alcuni suoi colleghi di partito l'hanno fatto, chiedevo lei che cosa ne pensava. È come se io dicessi che altre radio o altri giornali scrivono cose. Vabbè, o dicono adesso cose. Non è che i giovanisti hanno detto. Non se la prenda, Giovanardi, non c'è bisogno di stare lì a puntualizzare. Abbiamo fatto delle domande, lei ha risposto, siamo pari, non c'è problema. Invece, visto che fra un poco ci fermiamo, dobbiamo fare la borsa, lei va a fare il parlamentare. Un'altra cosa gliela dobbiamo chiedere di giornata, queste dichiarazioni del Papa che non ha detto chi sono io per giudicare i gay, ha parlato delle lobby gay mentre rientrava da Rio, insomma, dalla visita in Brasile. Ci sono le lobby gay intanto, secondo lei, in Vaticano? Ci sono le lobby gay, sì, chi ha seguito gli ultimi 20 giorni di dibattito in Italia e il tentativo di introdurre di soppiatto questa norma liberticida che procurerebbe il carcere a quelli che dissentono rispetto, per esempio, all'abolizione del matrimonio gay o l'adozione dei bambini, e chi come me ha partecipato a tante missioni sa che si ha a che fare con organizzazioni e associazioni ben radicate, ben organizzate, combattive, che combattono per raggiungere i loro obiettivi. Però credo che lì si parlasse di lobby all'interno del Vaticano che hanno a che fare anche con questioni diverse, insomma, da quelle che dice lei, Giovanardi. Di questo non ne so nulla, perché io non vivo all'interno del Vaticano, quindi non so neanche poi le dichiarazioni precise che abbia fatto il Papa. Invece su questa cosa che lui ha detto, chi sono io per giudicare un omosessuale, sono parole di grande apertura nei confronti del mondo gay da parte di un Papa, io non lo so, non me ne sono un esperto. Sono parole che la Chiesa ha sempre usato, e tutti i papi, e in tutte le circostanze, perché la Chiesa, rispetto a qualsiasi forma di peccato e di peccatore, ha sempre distinto il peccato dal peccatore. Quindi che la Chiesa abbia il massimo rispetto per le persone omosessuali, o che in politica le persone omosessuali possano esercitare tutti i diritti e avere tutti la possibilità in un paese libero di esplicare liberamente la sua sessualità, siamo tutti perfettamente d'accordo. Il dissenso incomincia quando vogliono sposarsi o adottare dei bambini o attraverso la fecondazione eterologa assemblare dei bambini, perché c'è il superiore diritto del bambino di avere il padre e la madre. Questo almeno è il mio punto di vista. Le vuol sentire, visto che ha detto che non ha fatto in tempo, poi la lasciamo, le parole di Papa Francesco, le sentiamo anche noi che non le abbiamo ancora sentite, sentiamo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Insomma, queste sono le parole, però insomma, per lei che è andata sempre giù duro sulla questione dei diritti delle coppie gay, a me sembra che questa frase qua di Papa Francesco sia un appoggio, un endorsement per tutti quelli che spingono per la legge sull'omofobia, la legge per i diritti delle coppie. Naturalmente poi la questione del matrimonio, chiaro, per la Chiesa resta un tabù, ma su tutto il resto... Esattamente il rovescio, qui è il rovescio, cioè il Papa dice quello che ho sempre detto. Dice quello che ha detto Giovanardi, il Papa? No, ha detto quello che la Chiesa ha sempre detto e che noi abbiamo sempre detto. Ma io però una frase del genere da un Papa non me la ricordavo, magari mi sbaglio. Che nessuno deve discriminare nessuno, che ognuno è libero di esplicare la sua sessualità, compreso Berlusconi a casa sua, quando non sono minorenni, senza finire sotto processo, quindi ognuno è libero di esplicare la sua sessualità, ma che da questo a ritenere di far passare norme che puniscono con il carcere chi ha opinioni diverse, se permette, su questo io non sono d'accordo, ma non solo io non sono d'accordo, credo che chiunque abbia uno spirito liberale non possa che protestare contro norme liberticide. Mi sa che lei però è in minoranza anche nel suo partito, da questo punto di vista, Giovanardi. Siamo talmente in minoranza che questa battaglia che stiamo facendo, tolto due o tre deputati o senatori, tutti gli altri ci stanno seguendo. Ma io però, sì, vi stanno seguendo, però a me non sembra che sia proprio in linea con quello che ha detto il Papa, questa sua posizione sulla legge sull'omofobia. Questa è la mia sensazione. Che lei sta facendo del Papa è indegna, proprio indegna, è uno sciacallaggio su quello che il Papa ha detto come Papa e come una persona che da Cristo in avanti, dalla Maddalena in avanti, ha sempre avuto parole di comprensione per tutti. Se questo lei lo vuole arruolare alla lobby gay o questa lobby, è una cosa... No, vabbè, che c'entra la lobby? Le facciamo sentire anche le parole sulla lobby gay, allora vai, così precisiamo di punto in punto al Papa. Il problema non è avere questa tendenza, no, dobbiamo essere ma fratelli, perché questa è una, ma c'è un'altra, un'altra. Il problema è fare lobby di questa tendenza o lobby di avari, lobby politici, lobby dei massoni, tanti lobby, no? Questo è il problema più grave per me. Cioè, a lui non gli interessa la distinzione di sesso, lui si preoccupa semmai che ci siano delle lobby dentro il Vaticano e forse anche fuori, allora, da quello che... Sottoscrivo totalmente quello che ha detto, e cioè che un conto è che ogni persona abbia il diritto di esplicare liberamente la sua sessualità, una cosa diversa sono le lobby che vogliono raggiungere obiettivi che non sono quelli della libertà, ma sono come quelli, questo lo aggiungo io, che in Italia vogliono criminalizzare chi non la pensa come loro, quindi in ordine al matrimonio, l'adozione dei figli. Beh, no, ma non è che vogliono criminalizzare, vogliono fare una legge per difendere, in questo caso, chi è omosessuale. Ma lei è disinformato totalmente, Sì, sì, sono disinformatissimo. È questione di punti di vista, Giovanardi, non è che l'informazione è la sua e la mia disinformazione, è una questione di punti di vista, dove evidentemente abbiamo punti di vista diversi, ma questo non importa, perché io poco conto. La sua disinformazione di quello che c'è scritto la norma, perché neanche le associazioni gay, giustamente, contestano questo, che scatti il reato. Poi loro lo difendono, io lo compro. Vabbè, ma insomma, lei ha voluto andare a parlare della legge sull'omofobia e volevo farle commentare le parole del Papa. L'abbiamo fatto, adesso la lasciamo ai lavori parlamentari che sentiamo in sottofondo. Ci sono, grazie per essere stato con noi. A Giovanardi, grazie, buona serata. Facciamo le borse. Prima, come sempre, una buona notizia. And now the good news. Eugenio Venditti ha investito 50.000 euro in una giovane impresa di software per l'arte e l'antiquariato che ha un database unico al mondo. Per questo è stato premiato come miglior business angel dell'anno. Angelo sì, ma con l'interesse. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo in vostra compagnia, 800 24 00 24. Tra poco cominceremo anche a sentire i vostri interventi al numero verde, interventi che già si fanno sentire invece all'SMS. Dopo l'intervista di Giovanardi, soprattutto sulla questione del Papa, il peccato cosa c'entra coi gay, ci scrive Marco. Secondo me, giustamente, al 349-238-6666, altre cose ingiuriose nei confronti di Giovanardi che non voglio riferire. Carlo Gabardini, che è qua in studio, che ha come regola d'ingaggio quella, esatto, di non interloquire con gli ospiti, perché è una cosa, soprattutto se Giovanardi, morbosa, noiosa, troppo no, perché è molto difficile, nel senso che la cosa che non ho ben capito è che Giovanardi, quando tu gli parlavi di lobby gay, in realtà lui sosteneva che le lobby gay sono quelli che vogliono la legge contro l'omofobia. Le lobby gay di cui parla il Papa sono dei cattolici, dei preti all'interno del Vaticano che stanno gestendo del potere, quindi noi stiamo parlando di vescovi e cardinali, non esattamente di quelli che vanno in giro a gay pride. Sono proprio due lobby diversi. La lobby gay del Vaticano non non sono dei simpatici gay che vanno al Gay Pride, vorrei dire. Giovanardi è come, non si può dire in radio, ma è come, io dico, è come fare la pipì controvento, cioè ti ritorna addosso tutto. È bravissimo lui a fare, da questo punto di vista qua, il politico dichiarazionista, cioè riesce sempre a rigirarla e a portarla, sì, dove gli parla. Oddio, lui. Dovevamo stare qua un'ora per, esatto, tirar fuori un'altra. Beh, una che ha girato veramente molto bella è quando dice, cioè, è bravo Giovanardi, a questo, no, punto è dice bravo. Il Papa ha detto che ognuno è libero nella propria sessualità, infatti anche Berlusconi può farlo, ma a meno che non siano minorenni. Come se il problema che noi imputiamo a Berlusconi sia la sua eterosessualità, cioè non credo. Cioè, il problema di Berlusconi non è che sia eterosessuale, direi. 800 24 00 24 con i vostri interventi tra un attimo. Vogliamo sentire anche un altro pezzettino del Papa, dai, sì. Quello sulla borsa nera che si porta dietro. Quando viaggio porto la... E dentro cosa c'è? C'è il rasoio. C'è il breviario, c'è l'agenda. C'è un libro da leggere. Ho portato uno su Santa Teresina. Io sono devoto, ma io sempre andato con la borsa quando viaggio, è normale. È normale, è normale. Il Papa, che è un uomo super normale da questo punto di vista, la cui normalità è, sta diventando una cosa che ci stravolge tutti. È anche molto simpatico, si può dire. Simpatico, veramente, sì, simpatico. È rasoio, ma sì, sembra un po', non so, Peter Sellers, mi sembra, quando parla. Fisicamente così. È che forse ci assomiglia un po', tra l'altro. Si aggancia al Papa subito Nicky Vendola, che vede in queste parole un'operazione di, diciamo, di che la politica deve cogliere dal suo punto di vista, naturalmente. Sentiamolo. E il Papa ci ha ricordato che la pedofilia non è un peccato, è un delitto, è un reato. E a proposito di omosessualità ha detto: chi sono io per giudicare un gay? Beh, io credo che se la politica avesse un milionesimo di questa capacità di respiro, di questa capacità di ascolto, di questa empatia con l'umanità e di questa capacità di futuro, la politica sarebbe una cosa più utile per aiutare la gente che soffre e per cambiare le cose. E già che ci siamo, ancora Vendola sui drammi che attanagliano in queste ore il Partito Democratico alle prese con la questione congresso e primarie. Ma io sto parlando molto con Matteo Renzi in questo periodo, perché sia oggi nel Partito Democratico il più critico nei confronti dell'esperienza del governo delle larghe intese. Si è fatto per ragioni strumentali, si è fatto per ragioni, diciamo, di merito. Devo dire che a me non interessa. No, devo dire due parole anche su questi gabbiani che sentite in sottofondo. Noi siamo regolarmente in studio a Milano, lontanissimi dal mare, però è l'atmosfera estiva che volevamo rendervi. Chi è al mare non gliene frega nulla, perché già se la gode. Chi invece è in città pensa a qualcosa di strano, secondo me. Allora, andiamo agli ascoltatori. 824 0024, Franco da Ascoli Piceno. Buonasera. Buonasera, dottor Maurizi. La sento volentieri, perché so che lei fa periodo che Cruciani va in vacanza, vero? Non ho capito che cosa ha detto. Mi sente volentieri perché? Perché sostituisce Cruciani. Sì, sì, sì, vabbè, l'abbiamo detto. Dato che io Cruciani non lo posso sopportare per il suo modo di condurre, sulla volgarità e poi sul lato fascistoide che ha, comunque, a parte questo. Cominciamo subito così, a gamba tesa. Quindi aspetta tutto l'anno, aspetta l'estate. Aspetta l'estate per potersi godere l'assenza di Cruciani. No, vabbè, insomma. Ma certo. Ma quindi soffre, sono mesi di sofferenza durante l'inverno. No, io sento Radio 24, tutte le altre trasmissioni, che è molto interessante, però non la Zanzara, nell'ultimo anno è una cosa proprio schifosa. Comunque, detto questo, andiamo a bomba. Allora, sì. Io telefono per via della sentenza Berlusconi, no? Sì. Ecco, cioè è 20 anni che questo personaggio ci sta umiliando, sia all'estero che adesso arriva una sentenza che forse sterperà questo cancro, no? Sperando che non lasci molta metastasi, perché io poi volevo dargli un consiglio a Berlusconi. Perché non fa qualcosa di eclatante, così almeno esce in una maniera alquanto, non dico dignitoso, ma almeno riscatta tutta la sua vita malsana che ha fatto. Cosa vuol dire fare qualcosa? No, cosa ha detto? Si spara, sì, si suicida. Vabbè, guardi, questa è proprio una sciocchezza, scusi, per non dire di peggio. Ma no, poi non è una soluzione interessante, ha detto proprio onestamente. Che proposta? Mi lasci parlare, allora, se non si spara, a un certo punto libera l'Italia da tutte queste sue bruttezze che ha fatto, in più le loro famiglie, i figli e così, hanno un riscatto, perché almeno, ma pensi un po' lei, i figli di Berlusconi, tutti i giorni sul giornale, un padre così, ma non si rende conto. Ma io non c'entro nulla, certo, per loro bisognerebbe chiederlo a loro, questa sarebbe un'intervista da fare. Però guardi, ci sono modi più semplici per risolvere la questione. Se Berlusconi, come molti dicono, fa un passo indietro, esce dalla politica, abbiamo risolto, non c'è bisogno che si spari. Si suicida, ovviamente libererà l'Italia, perché se aspettiamo dalla sinistra e di tutti quei quattro politici corrotti che abbiamo lì a Roma, noi non ne usciremo più. Franco è arrabbiatissimo. Ma il problema è la gente comunque che l'ha votato, chi voterà poi a quel punto? Perché il problema non è che sia Berlusconi lui. Scusi, i 9 milioni che loro continuano sempre a riempirsi la bocca, lo sa chi sono? Allora, no. 30% sono quelli che a un certo punto aspettano le senatorie, e poi ovviamente e tutte quelle leggi che fa per quindi il 30% degli elettori sono abusivi, sì. Gli altri 30% sono quelli che ovviamente sono tutti, diciamo così, ubriacati, diciamo, sotto metadone, no? E gli altri 30% sono quelle vecchiette che, poverine, stanno là a vedere la televisione, canale 5 così, che gli fa una testaccia così. Franco, allora manca un 10, aspetta, però, manca un 10, perché 30-30-30 fa 90. E sono indipendenti di Berlusconi, che sono tanti. Franco era partito un po' male, però l'analisi sull'elettorato, secondo me, non è sbagliata. C'è una parte grossa degli italiani che hanno un rapporto difficile, traduco, no? Conflittuale con la giustizia, e quindi lei parlava degli abusivi, quelli che hanno gli abusi da condonare, perché l'Italia è fatta anche di questo, e sicuramente, certo, vedono in Berlusconi un punto di riferimento. Poi ci sono, c'è la demagogia, la sua grande capacità di propaganda, e poi non mi ricordo l'altro 30%, ma insomma l'analisi non era male, Franco. Sono d'accordo. Ecco. Cioè, sono d'accordo l'analisi, ma il problema è che non è che se Berlusconi si autoesclude questi 9 milioni di persone vanno via, quindi il problema è dell'Italia. Se si che presentasse cambia? Franco, se si presentasse Marina Berlusconi, come dice qualcuno, secondo lei facci cosa succederebbe? Cambierebbe qualcosa? Beh, è più vergognoso del padre, perché a sua volta prende un'eredità così malsana e così, diciamo, per usare delle parole non troppo edificante, per sua volta porta avanti il treno, ma è un treno che va a sbattere, anche perché poi la sinistra, diciamolo pure, io ho votato sinistra radicale, però non sono uno coi paraocchi, a un certo punto la sinistra ha permesso tutto questo sfacelo, l'Italia deve solo ringraziare la sinistra e quei quattro coglioni che sono lì, perché i giovani... La sua è la tesi, quasi la tesi di Grillo, insomma, a questo punto. No, io... Sì, vabbè, non importa. Franco, grazie, grazie Franco, ci fermiamo qua con lei, non con la trasmissione, perché andiamo avanti, anzi 800 24 00 24, ci sono già alcuni ascoltatori in linea, continuiamo a sentirli, prima però una breve pausa. And now, the good news! Quando la star è al servizio della solidarietà, se hai un amico che adora un VIP, regalagli un momento indimenticabile. Acquista per lui sul sito charitystars.com la maglia autografata o la cena con la star. Gli incassi andranno in beneficenza. Very important portafogli. Si può fare l'attualità anche d'estate. E c'è un tweet, Carlo, che è rivolto a noi dopo l'intervista con Giovanardi. Sì, Carlo che mi faceva ridere, un tweet di Jay Gufo che dice: se il Papa si dichiarava tifoso della SPAL, Giovanardi diceva di essere della SPAL, salvo dopo precisare che in realtà lui tifa Milan. Che è esattamente il meccanismo che ha avuto, diciamo, Giovanardi durante l'intervista, che diceva: è esattamente quello che dico io, quello che dice il Papa, cioè che bisogna assolutamente... Anche se sembrava un po' l'opposto. Allora sentiamo Marco da Reggio Emilia al numero verde 824 0024. Buonasera. Buonasera. Prego. Niente, volevo intervenire anch'io su Berlusconi per dire che io penso che due gradi di giudizio sarebbero più che sufficienti se sono coerenti e costanti. Credo che nei prossimi giorni si vedrà se in Italia c'è la giustizia. Cioè, che vuol dire, scusi? Sia meno criptico. No, se sta condannato è evidente che si potrà avere un briciolo di fiducia nel sistema giudiziario. Se verrà assolto, credo che sarà una crisi comunque. Ma non crede, però, mi scusi, non crede che, da quel che capisco, lei è, insomma, la tesi, diciamo, il lato giustizialista, tanto per intenderci, non crede però che bisogna credere nella giustizia sempre, sia quando condanna che quando assolve, sennò diventa un, sì, un, case, un casotto. Come è possibile che due corti si siano sbagliate di seguito? Mi spiega, cioè, vuol dire, allora in ogni caso, se fosse questo è un problema che riguarda la giustizia italiana sempre, perché capita, dipende se uno inizia con una condanna o con una assoluzione, essendo tre i gradi, cioè il numero dispari, tendenzialmente uno sì, uno no, uno sì, uno no, si potrebbe andare avanti all'infinito. È una cosa sicuramente che non va della giustizia italiana, questa cosa qua. Dopodiché, poi, ripeto, bisogna rispettarle tutte le sentenze, crederci, altrimenti ognuno crede a quello che gli fa più comodo, no? Poi è anche un'enorme tutela, in realtà, il fatto di avere tre gradi di giudizio. Quindi sì, è difficile. Se fosse più veloce, è sarebbe possibile meglio, sbagliarsi due volte. Sì, è possibile, questo va detto. Poi, al di là di quello che succederà in questa sentenza. Francesco da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io intervenivo principalmente perché sentivo di nuovo la voce di Giovanardi in una trasmissione, francamente. Cioè, lei, quando sente la voce di Giovanardi c'ha un brivido di fastidio. Ma infatti noi lo mettiamo apposta, ce l'abbiamo registrato. Ecco perché, così ci chiamiamo. Esatto, sapevamo perché... che ci ascoltavi. Era un Giovanardi dannata, invece no, era un Giovanardi vero. Ha sentito Giovanardi e le ha dato fastidio. Volevo sapere, ma voi, cioè, è possibile non riusciate a selezionare all'interno dell'area di centrodestra una persona ragionevole? Gliela dico tutta, gliela dico, ragazzi, Giorgio De Luca e Riccardo in redazione. Allora, gliela dico tutta. Noi abbiamo chiamato, credo, 10 esponenti del PDL oggi per avere l'intervista, in base alle dichiarazioni che hanno rilasciato, perché Giovanardi, onestamente, da questo punto di vista è stato coerente, non aveva detto niente prima, non ha voluto dire niente oggi su questo, certo. Sul Papa poi ne ha dette da ogni colore, e quindi ecco perché siamo arrivati a lui, tra l'altro perché sulla questione invece degli omosessuali lui ha sempre qualcosa da dire, sì, ed era interessante su questo sentire se si sentiva scavalcata a sinistra da Papa Francesco. E poi proprio nel giorno in cui il Papa dice il problema sono le lobby, i gay non sono un problema, direi che sentire Giovanardi è perfetto. Ci stava. Quindi vabbè, è spiegata la cosa. Ecco, soddisfatto. Questo è negazionismo puro. Vabbè, comunque. Cosa è negazionismo? No, dice quello di Giovanardi. Quello di Giovanardi. Sì. No, intendo dire, è possibile, non si riesce mai. Cioè, lo cercate qualcuno di ragionevole? Gliel'ho già detto, Francesco, non so come ripetere. Cercatelo. L'abbiamo cercato, non abbiamo. Il Parlamento non è facilissimo. Allora, comunque, oggi alla Camera ci sono lavori, al Senato ci sono lavori parlamentari. Forse questa vigilia, non avendo ancora ordini di scuderia chiarissimi, gli esponenti del PDL non sanno che pesci pigliare, cosa vuole che le dica? Abbiamo trovato Giovanardi. Adesso, però, facciamo un passettino in questa direzione, su questo versante, col vice sindaco di Torre Annunziata, provincia di Napoli, Ciro Alfieri. Buonasera. Buonasera. Il quale ha detto qualche giorno fa, benissimo, se Berlusconi viene condannato definitivamente e va ai lavori socialmente utili, noi qua a Torre Annunziata abbiamo un posto per lui. Un po' sadico, eh? Lei forse, credo, perché lei non è uno del PDL. Di che partito? Assolutamente no, sono di Centro Democratico, quindi centro-sinistra. Centro-sinistra. Cioè lei vorrebbe godersi la scena di Berlusconi che lavora al suo comune? Perché no? Perché no, impiegato nei servizi socialmente utili e quindi a disposizione di chi è probabilmente può avere bisogno della sua disponibilità, della sua capacità, insomma, perché, da un punto di vista di uomo, Berlusconi, sì, e non del politico, chiaramente. Perché sembra una boutade, una provocazione, ma lei ha scritto una lettera alla Corte Costituzionale per fare presente questa vostra intenzione, disponibilità? Assolutamente sì. Cosa c'è scritto? Ho scritto proprio una lettera che va in tal senso, nell'ipotesi in cui dovesse essere condannato, ho chiesto alla Suprema Corte di poter valutare la possibilità di una pena alternativa assegnandola ai servizi sociali del nostro comune. Ma per fare che cosa? Ma intanto per poter avere la possibilità di mettere a disposizione dei giovani la sua capacità di impresa, le sue conoscenze. Cioè le lei da oppositore politico, però il Berlusconi imprenditore lo vorrebbe. Beh, chi potrebbe dire il contrario? Voglio dire, non lo invento io, non dico io chi è Berlusconi da un punto di vista imprenditoriale. Certamente da un punto di vista politico ho delle idee diverse dalle sue, ma ciò non toglie che io che le sue capacità possono essere messe al servizio della collettività. Ma secondo lei Berlusconi dovrebbe accettare il suo invito per quale motivo? Che poi non lo so come funziona da questo punto di vista. Ma sarà probabilmente dovrà essere il giudice ad assegnarlo. Non certamente la mia richiesta va ad auspicare un'ipotesi del genere, ma dovrà essere il supremo giudice a poter stabilire una cosa del genere. Intanto io ho dato la disponibilità come comune a poterlo accogliere nei nostri servizi. Ma cos'è che gli farebbe fare esattamente, che non ho capito bene? Se vogliamo qua in studio parlare, c'è Carlo Gabardini con noi, sei intromesso perché sì, ho sbagliato. Dovevi, la regola d'ingaggio è con gli ospiti parliamo solo noi. Può non rispondere alla mia domanda, però le chiedeva che non avevo capito che cos'è che intendeva far fare a Berlusconi nel comune. Servizi socialmente utili, quindi a disposizione della collettività nel nostro comune, cioè ripulire i giardini. Se vogliamo approfittare della possibilità e delle competenze che Berlusconi ha sotto l'aspetto imprenditoriale, perché non fare degli stage per i giovani a cui trasferire un sistema di impresa che possiamo dire tranquillamente che è vincente, quello di Berlusconi. Quindi, è un po' tirata per i capelli, secondo me, caro vice sindaco. Cioè, io capisco perché l'elemento suo politicamente un po' sadico di volersi godere il nemico di una vita politico a fare lavori socialmente utili nel suo però comune. La politica è una cosa, va distinto. Qui Berlusconi è un cittadino italiano come tutti gli altri, quindi se noi abbiamo già in affidamento altre persone che hanno avuto pene alternative e quindi hanno questa possibilità per poter essere utilizzati in servizi socialmente utili, perché poi Berlusconi non potrebbe qualcuno suggerisce Berlusconi a guidare la panda per portare i vecchi a fare gli esami del sangue, Paolo da Lecco, oppure magari li potrebbe accompagnare a fare il soggiorno climatico che noi facciamo ogni anno, accompagniamo circa 400 anziani. Questo è il momento proloco questo è il momento proloco del vice sindaco di Torre Annunziata che ci fa lo spot in 10 secondi. Faccia lo spot. Dico che la legge è uguale per tutti. E no, su Torre Annunziata, lo spot su Torre Annunziata. Venite a Torre Annunziata perché città da visitare è la città della villa di Poppea, quindi la vecchia Opronti, è una villa romana di grande splendore che sta nella nostra città. Forse con Poppea Berlusconi un passaggio lo fa lì da quelle parti. Ma non c'è più Poppea però. Allora se non c'è più Poppea o Plontino, ci sono i resti della villa che auspica che pure la redazione possa venire un giorno a visitarli, perché se lei ci mette la villa, Poppea ce ne mette Berlusconi, secondo me. Vabbè, questo poi non sono cose che posso stabilire io. No, infatti ci pensa Berlusconi, secondo Carlo Gabardini. Che dire, vice sindaco, io la saluterei qua, vediamo domani come va. Lei la sua domanda l'ha fatta alla Corte Costituzionale, alla Corte ha proprio scritta la consulta? Sì, alla Corte Suprema di Cassazione. Vedremo se l'ascolteranno. Questo nell'imposta ipotesi, non è che io auguro a Berlusconi di essere condannato, ci mancherebbe, non voglio essere giusto anche dirlo. Di cattivo auspicio, ma come dire, ho anticipato probabilmente un pensiero facendo questo tipo di richiesta. Va bene, vedremo se questa vicenda avrà degli sviluppi oppure no. Grazie intanto, buona serata per essere stato con noi. Buon lavoro. Sentiamo Marco da Prato che ci chiama al numero verde. Buonasera Marco. Abbiamo poco tempo, poi c'è il GR, cominciamo. Buonasera a lei. Sì. Sono stato stimolato al telefonare dall'intervento precedente di quel signore che si augurava un suicidio di Berlusconi, che mi sembra incommentabile, francamente una cosa abbastanza penosa da questo punto di vista. Volevo invece sollevare un problema che era quello che riguarda appunto la giustizia, che sicuramente deve essere uguale per tutti, ci mancherebbe. Quindi non sto qui a domandarmi se lo condanneranno o non lo condanneranno. Se lo condanneranno si sconterà la sua pena, punto e fine. Il problema, mi pongo un altro problema. Mi pongo il problema di quei giudici, e ne abbiamo avute di esperienze. Senta, la interrompo qua perché sennò non ce la facciamo a sviluppare il suo ragionamento perché abbiamo il giornale radio. Ci risentiamo subito dopo, 800 24 00 24. And now, the good news! Si chiama trailmeup.com, il sito creato da alcuni italiani dove vengono mappati i sentieri da camminare nei posti più belli del mondo. Per una volta siamo arrivati prima degli americani. Google ha infatti chiesto loro di collaborare. Sì, ma posti in piedi. Si può fare l'attualità anche d'estate. 19:15, ben ritrovati cari ascoltatori, numero verde lo ricordiamo subito 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Questo non cambia, cambia il nome del programma, 18 20 e 30 si può fare l'attualità anche d'estate. La zanzara si interrompe, le zanzare sono in vacanza, Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo, ci siamo Alessio Maurizio e Carlo Gabardini che da stasera ci ha raggiunto e così in qualità di... Tra l'altro tu hai fatto una partecipazione straordinaria nel film Si può fare. Sì, no, no, non una partecipazione, io ho proprio fatto l'attore, sì, sono uno dei matti. Sentite come sono gli attori che subito è suscettibile. No, per nulla, no, esatto. Scusa, perché io dico sempre, di tutte le altre cose dico sempre no, ma faccio una partecina no, proprio, eri un personaggio, ero uno dei matti ed è stato... Ragioniere, no, non mi ricordo cosa facevi. No, facevo Goffredo, che era uno con un ritardo cognitivo e quindi diciamo aveva un'età mentale di 5 anni, però era un ragazzone di 35. Un film straordinario, tra l'altro casualmente il nome del programma è lo stesso, ma è casualmente... No, veramente. Di Giulio Manfredonia, che salutiamo, regista. Un film notevole con Claudio Bisi, eccetera. Quindi questa cosa andava detta prima o poi. Giusto. Fermiamoci qua con le Amarcord perché non ci portano da nessuna parte. Adesso titoli del TG3. "38 morti e 10 feriti nella tragedia in Irpinia. Prima di finire nella scarpata, il pullman ha percorso un tratto di strada perdendo pezzi. L'autista ha cercato di frenare la corsa del bus accostandolo al guardrail, che però ha ceduto. Aperta un'inchiesta, domani funerali. Il Papa ai cronisti sull'aereo: chi sono io per giudicare un omosessuale che cerca Dio? Mi occuperò subito dello IOR, nella borsa tengo rasoio, agenda e breviario. Domani, ma potrebbe slittare a mercoledì, la decisione della Cassazione su Berlusconi, il PDL in fibrillazione e tensione anche nel PD. Nonostante il nervosismo della politica per Letta, la sentenza non provocherà terremoti. L'Italia è un paese stabile e l'Europa deve ripartire da Atene. Dopo il massacro in strada a Marina di Massa, un altro uomo nel Salento uccide l'ex moglie. Prima le spara, poi si suicida con la stessa arma. Roma, tensione sotto l'abitazione di Prib, che è il boia delle Ardiatine, che compie 100 anni, spintoni tra parenti e rappresentanti della comunità ebraica. Adesso abbiamo anche i titoli di Sky TG24, via! "38 morti, 10 feriti nell'incidente in Irpinia. L'autista del pullman ha cercato di rallentare prima della caduta dal viadotto. E si indaga per strage colposa e omicidio colposo plurimo. Proclamato il lutto nazionale, Letta domani a Pozzuoli per i funerali. Processo sui diritti Mediaset, Berlusconi rischia i domiciliari, l'interdizione dei pubblici uffici. Domani o mercoledì la sentenza. Intanto il premier è ottimista, il governo dell'Italia è stabile, ma molti parlamentari del PDL sono pronti a dimettersi in caso di condanna. Papa è rientrato dal Brasile, ai giornalisti sul volo risponde senza filtri: non giudico i gay, ma sono contrario a tutte le lobby. Si apre il sipario sulla Serie A, in diretta su Sky la cerimonia dei calendari e già alla prima giornata saranno possibili big match. Conosciamo molto bene la vicenda, conosciamo bene il presidente Berlusconi, siamo assolutamente certi della sua estraneità e quindi siamo certi che la Cassazione non potrà che assolvere il presidente Berlusconi. Il giorno del giudizio è quello che ci sarà alla fine dei tempi e quando il Dio ci metterà alla destra i buoni e alla sinistra i cattivi. Questo è un giudizio di una Corte di Cassazione. Prendiamolo per quello che è. La grande attesa per la decisione della Cassazione, che dovrebbe arrivare domani, secondo alcuni potrebbe anche slittare fino all'ultimo minuto. I legali di Berlusconi potrebbero chiedere anche questo, cioè un rinvio più tempo, però non sarebbe molto, moltissimo tempo, ma poco tempo. Questo è quello che scrivono alcuni retroscena sui giornali di oggi, le notizie che ci sono sino a questo momento. Sentiamo chi è convinto che in campo non ci sarà più comunque Silvio, ma un altro esponente della famiglia Berlusconi, costui è Filippo Facci. Io sono abbastanza certo che la discesa di Marina Berlusconi sia in fase di predisposizione. Libero ha avuto qualche informazione, assicuro, abbastanza piuttosto fondata sul fatto che possa considerare come possibile Berlusconi quella di avere non tanto una grazia, ma insomma una serie di prerogative. Cosa dovrebbe fare Berlusconi? Cosa dovrebbe fare il PDL domani in caso di conferma di questa condanna che prevede, lo ricordiamo, l'interdizione a 5 anni dai pubblici uffici? Ve lo chiediamo, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Come vi chiediamo anche di commentare le parole del Papa di oggi, che così casualmente, incidentalmente, tornando da Rio, ha detto delle cose sulla questione delle lobby gay nel Vaticano e anche sull'apertura di grande tolleranza della Chiesa, nelle parole niente po' di meno che del Papa, che mi sembra non abbiano molti precedenti. Chi sono io per giudicare gli omosessuali? Cose che dette in altri tempi, insomma, sarebbero sembrate strane, quantomeno, perché insomma la Chiesa, per la Chiesa, per una parte forse quella più oltranzista della Chiesa, c'è addirittura qualcuno che parla di malattia da curare, non ce lo dimentichiamo, ci sono delle cliniche, credo, con proprio delle suore e dei preti che fanno anche questo. Quindi insomma, Papa Francesco: se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Fammela come la morte. Il problema non è avere questa tendenza, no, dobbiamo essere ma fratelli, perché questa è una, ma c'è un'altra. Il problema è fare lobby di questa tendenza o lobby di avari, lobby politici, lobby dei massoni, tanti lobby, no? Questo è il problema più grave per me. Signor Gabardini, lei eccomi, che è lì a twittare con, beh, i suoi quasi 30.000 follower. Sono d'accordo con te, è veramente straordinaria questa cosa che dice il Papa, perché detto da un Papa, cioè la domanda cosa ne pensa delle lobby gay, uno che risponde, beh, le lobby sono veramente un problema, i gay non lo sono, mi sembra incredibile. Tu dicevi, per un Papa è... cioè fino all'altro ieri, visto che anche perché il suo predecessore è lì. Avevamo Marco da Prato in attesa, ascoltatore, lo riprendiamo e così gli facciamo ripetere il suo intervento, perché non ci ricordiamo più nulla, però abbiamo dovuto interrompere. Ma chi paga la telefonata? La chi telefonata? Paga? La... Pronto? Pronto, Marco? Si, mi sente? Non dia ascolto a Gabardini qua, vada col suo intervento. No, l'abbiamo tenuta in attesa tantissimo, per questo mi chiedevo semplicemente se pagavamo noi o lei. C'era un abbonamento flat. No, non si preoccupi. No, dicevo, l'intervento mio era stato sollecitato inizialmente da quell'intervento del precedente ascoltatore che si auspicava un suicidio di Silvio Berlusconi all'indomani della sentenza. Vabbè, queste sono affermazioni, lasciano il tempo, cioè si commentano da sole, quindi non è che era quello il problema. Il problema invece che volevo sollevare era un altro, riferito proprio al discorso giustizia in generale. Mm-hmm. Cioè noi purtroppo siamo un paese che vive da anni in una condizione in cui la giustizia onestamente ha quantomeno degli aspetti inquietanti, e mi spiego meglio. Noi abbiamo avuto degli esempi clamorosi, uno fra i tanti, e quello forse più clamoroso è quello di Enzo Tortora, dove la giustizia si è accanita contro un signore, lo ha perseguitato fino a portarlo alla morte, perché alla fine il risultato è stato questo. Dopo è stato riconosciuto completamente innocente, quindi a monte c'era un vizio tremendo della magistratura inquirente, la quale magistratura inquirente non ha pagato. Cioè noi abbiamo un sistema di giustizia che si autoassolve. Cioè tutti gli organi dello Stato hanno un sistema di controllo. Mi lasci dire però solo una, è chiaro il suo ragionamento, però non ho capito bene dove ci porta, perché mi lasci dire con la figlia di Tortora che il caso di Berlusconi con quello di Tortora non c'entra nulla. Però, assolutamente. Certo. No, è il quadro della giustizia italiana che contiene anche quello. Sì. Mi scusi, Berlusconi se viene condannato farebbe bene andare in galera. Cioè, ci deve andare, per carità, non c'è nessun problema. Anzi, la legge deve essere uguale per tutti, ma non deve essere anche per i magistrati. qui è il vulnus di questo paese. Quando un magistrato fa un errore clamoroso come quello del caso Tortora, non può continuare a fare la sua professione e salire di carriera come è avvenuto. Questo è lo scandalo nello scandalo. Anche per questo, la questione della responsabilità penale, è anche questo però... È anche per questo che ci sono tre gradi di giudizio, ci sono tanti giudici che passano in vaglia le sentenze. La responsabilità penale, quindi, alla fine, avevamo fatto un referendum sulla responsabilità penale dei magistrati. Perché un magistrato non deve rispondere penalmente dei suoi errori? Un medico, se fa un errore, ne risponde o no? Però questo che c'entra con la questione, con l'attesa di Berlusconi della Cassazione? Io mi auguro che Berlusconi abbia il suo giudizio sereno. Ma nel caso in cui... Ma cos'è un giudizio sereno per lei? Un'assoluzione? Ma non lo so, se non, io non ho mica gli atti dei giudici in mano. Come si fa a giudicare un giudizio sereno? Mi dica lei. Questa giustizia sicuramente non è serena. In questo momento in Italia non c'è una giustizia serena. Su questo non c'è dubbio. Lo dice lei? Ha delle informazioni di prima mano. Guardi, alla giustizia si permette, un PM come Ingroia si permette di fondare un partito, dichiarare apertamente di che linea politica è il partito e poi procedere anche dopo di continuare a fare il magistrato come gli farà lui e dove gli farà lui. Sono le regole che lo consentono, anche secondo me è un'assurdità, però queste sono le regole, le leggi che lo consentono ai politici di cambiare le regole, le leggi, non ai PM, perché i PM le leggi le devono applicare, ma non le fanno loro. Questa legge qua di cui parla lei la fanno i politici che siedono in Parlamento, quindi prendiamocela anche coi politici, anche con quelli che ha votato lei e che ho votato anch'io, ma non coi PM, perché quella è una legge italiana, lo sa? Ha capito? Cioè, questo bisogna dirlo, perché uno fa quello che gli consente la legge. Se la legge gli consente di farlo, finiamolo di fare sto discorso, o no? Mi auguro venga fatta finalmente una legge dove si dica la legge ci vuole, certo. La magistratura non è eletto dai magistrati la sua stragrande maggioranza, ma si è eletto dai cittadini, punto. Così c'è qualcuno che controlla cosa fanno i magistrati. Però lei sta parlando di una cosa che valeva, se ne poteva parlare anche 5 anni fa, 10 anni fa, o ne potremmo parlare anche tra 10 anni o 20 anni. Non è proprio sull'attualità, Marco. Va bene, grazie. Adesso noi abbiamo la borsa, credo, tra un attimo. La facciamo a questo punto, così non siamo in ritardo. E poi dopo facciamo anche il punto di vista strambo, perché vogliamo introdurre anche questo, Gavardini, lo sai? Sì, signori. Ti avevo assolutamente istruito su questo. Sentiremo. No, non mi hai istruito. No, non ti ho istruito. Vi istruisco anche agli ascoltatori. Sentiremo in queste sere dei bambini, i pazienti di un servizio psichiatrico che gestiscono uno stabilimento balneare, degli imprenditori, un imprenditore, cittadini, gente comune, chiunque, qualcuno però che ci porti un punto di vista diverso su questa attualità che cerchiamo di commentare ogni sera, un po' come facciamo con gli ascoltatori, però siamo andati a cercare così dei personaggi che speriamo ci dicano qualcosa di diverso. 800 24 00 24, tra poco poi di nuovo con gli ascoltatori. Borsa. And now the good news. È proprio vero che i soldi non fanno la felicità. Giuseppe Stallone, del bar Persefone di Milano, è stato uno dei primi in Italia a togliere le slot machine dal suo bar, rinunciando a dei bei guadagni. Non ne poteva più di vedere i clienti con l'aria triste. Tristezza, per favore, vai via! Tutto questo attesa, la sentenza, la Cassazione, Berlusconi, il governo Letta, terrà, non terrà, l'economia va a rotoli, speriamo di no, c'è chi taglia la corda e se ne va. Parliamo del nostro punto di vista strambo di oggi, che è Stefano Cucca, un ciclista sardo. Buongiorno, buonasera a questo punto, Stefano. Sì, ciao ciao. Dove ti trovi, Stefano? Guarda, in questo momento mi trovo a Kloben. In Germania. Pronto? Dalla Germania. Sì, perché tu sei partito l'8 giugno, se sono ben informato, sì, per fare un giro del mondo in bicicletta, più o meno. Sì. Sì, diciamo che il giro del mondo in bicicletta è lo strumento. L'obiettivo è quello di andare alla ricerca di storie e stili di vita sostenibili. Che vuol dire questo? Sei un idealista di quelli che vanno in giro cercando un mondo diverso? No, assolutamente no. Mi reputo un Come no? Siamo un po' delusi, io speravo di sì. No, no, no, purtroppo mi dispiace, però no, penso di essere appunto una persona abbastanza equilibrata che però in questo momento pensa che appunto questa crisi mostri veramente tutti i suoi limiti, o meglio questo modello economico mostra tutti i suoi limiti, e quindi secondo me è venuto il momento, come già tanti fanno e già tanti faranno, di dare un piccolo contributo secondo me per cercare modelli e stili di vita alternativi a quelli legati al consumismo. Come dicevi tu poc'anzi prima di aprire, anche da qua ogni tanto leggo i giornali, Berlusconi Letta, cioè secondo me uno dei nostri grandi problemi è proprio questo. Quale? Berlusconi e Letta? È 30 anni che continuiamo a rimbalzarci così, spostiamo solo avanti la lancetta delle problematiche. Vabbè, Letta è nuovo, Letta è un po' più nuovo rispetto a Berlusconi, aveva 20 anni, era già in politica, adesso ne ha 45, quindi basta farsi due conti. Però dici la verità, Stefano, cioè non avevi niente da fare in Italia, si parla sempre del fatto che i giovani sono senza lavoro, e tu hai detto già che sono senza lavoro, vado a farmi un giro. Oppure no? No, la verità, un lavoro lo avevo e anzi ero contentissimo di ciò che facevo, però ripeto, sono di un parere che appunto non dico che non fossi contento di ciò che facevo, però l'anno scorso mi trovavo negli Stati Uniti e il mio obiettivo era quello di creare una piattaforma dove le persone potessero scrivere, leggere, condividere modelli, stili di vita alternativi al consumismo, e poi ho legato a questo il mio sogno, che era quello di fare il giro del mondo in bicicletta. Ah, negli Stati Uniti non eri in bicicletta? No, assolutamente no. Io non ho capito. Anzi. Vai, racconta. No, in realtà ero in bicicletta perché sono andato lì a fare una business school di economia, però dopo quell'esperienza sono andato in Canada per fare una gara, quindi in effetti ero in bicicletta. Ma giri tantissimo. Beato te. Esatto. Una gara di che cosa? Una gara di triathlon. Ah, vabbè, sei anche uno sportivo, vabbè. Stefano, ma cioè, questa impresa, no? Chi te la finanzia? Te la finanzi da solo? Parliamoci proprio brutalmente, perché qui si spendono dei soldi per star via un anno. Sì, allora, in giro, diciamo, per il mondo. Che di base appunto ci sto mettendo i quattrini miei, sì. E poi nel sito le persone possono anche contribuire appunto con una donazione a questo progetto. Però vogliamo dire il sito? Vogliamo dire il sito? Lo l'hai già detto? Sì, no, il sito è www.rumundu.com. Rumundu è carino, diciamo perché Rumundu, perché te l'ha suggerito tua nonna. Sì, un giorno mi disse, ma tu sei sempre in giro per Rumundu, che vuol dire, ma tu sei sempre in giro per il mondo. Certo, quindi si capisce. Ma Stefano, ci sei passato dal Kazakistan? Perché No, peccato. No. Perché non fai una tappa? Perché di lì ci potresti informare su come stanno reagendo i giornali kazaki al noto affair. Vabbè, niente, questo sarà per un'altra volta. Adesso dove vai? La prossima tappa? Cosa vedi? Insomma, cosa dicono le persone che incontri di te, che sei italiano del nostro paese? Qual è il rimando che hai? Ma diciamo che ne parlavo proprio ora con un docente universitario tedesco, che appunto anche lui era molto, molto colpito appunto del fatto che appunto stessi facendo il giro del mondo in bicicletta, e tutte le persone che mi incontrano non fanno altro che aiutarmi, che chiedermi se ho bisogno di qualcosa. Vabbè, questo perché gli fai un po' pena, che... secondo me, perché pensano che fatica fare il giro del mondo in bicicletta, quindi ti tendono la mano. Questo sì, mi sembra. Sì, in realtà effettivamente ho la fortuna. Ho avuto la fortuna di incontrare persone meravigliose, ma come tante ce ne sono nel mondo. Vabbè, insomma, italiano a testa alta, questo si può dire, sì. Sì. Ma, la verità è che risalendo l'Italia, la riflessione che ho fatto è peccato, perché anche dopo aver attraversato la Svizzera e ora attraversato la Germania, peccato lo dico, perché secondo me siamo un grandissimo popolo con grandissime potenzialità. Abbiamo la nostra Italia è invidiata da tutti, però diciamo che appunto purtroppo ci sono troppe cose che non vanno bene. E qual è la cosa che va meno bene secondo te adesso dell'Italia? Qual è la strada? Qual è la cosa che va meno bene in Italia, che vorresti cambiare di più? Diciamo che la cosa che secondo me dovremmo cambiare è proprio la visione. Cioè dovremmo cercare di avere una visione un po' più realistica di quella che è appunto la situazione economica reale, che appunto è legata ad un modello soprattutto, non dico per colpa, ma forse sì, per colpa della TV, che ci mostra un messaggio, o meglio un modello che è troppo legato a delle cose materiali. cioè meno consumi, meno consumi. Però Stefano, i consumi reggono l'economia. Come facciamo? Se già sono in crisi i consumi, se poi tagliamo ancora di più, dove andiamo a finire? Il problema è veramente questo, che è un gatto che si morde la coda, perché se noi continuiamo a pensare che l'obiettivo, che il focus, il PIL e siano i consumi, noi continuiamo a creare modelli e situazioni dove ripeto, si annodano su se stessi. E secondo me i limiti li vediamo tutti i giorni avanti ai nostri occhi. Cioè, noi non possiamo competere con la Cina in questo momento. Tu prendi appunti in questo viaggio che stai facendo, magari poi scriverai un libro, comunque questi appunti ce li riferisci tra qualche giorno, tra qualche settimana ci risentiamo quando avrei fatto un po' di strada in più. Buon viaggio, buone pedalate. Io vi ringrazio, molto gentili, e un saluto a tutti. Buon viaggio. L'Italia. Grazie, viva l'Italia. Stefano Cucca, ciao. Pedalatore, ciao. Viaggiatore in bici dall'8 giugno per un anno in giro per il mondo. Adesso riprendiamo 800 24 00 24 con alcuni ascoltatori che ci aspettano praticamente da ieri. Chi è che abbiamo? Alberto? Alberto, sì, dalla provincia di Varese. Sono gli ultimi ascoltatori, diciamo, della Zanzara, questi, sì, che sì. Sono ancora in attesa. Dal weekend. Alberto, buonasera. Sì, buonasera. Eccoci qua, ecco. Prego. Sì, io niente, volevo intervenire sul vostro giudizio espresso sulle affermazioni del Papa. Nel senso, il vostro programma si intitola Si può fare. Ecco, a me sembra che si può anche interpretare liberamente quello che ha detto il Papa. Nel senso, certo, certo. Mi sembra che ci sia un gravissimo equivoco. Cioè, io dissentendo un po' da quello che avete detto, sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Giovanardi, non mi sembra che abbia detto niente di stratosferico. Ma mi sembra che viene confuso il rispetto che viene dato a una persona, quindi a una persona omosessuale, come a qualunque altra persona, che è quello che insegna la dottrina della Chiesa, con una legittimità invece da un punto di vista sociale. E a me questo mi sembra che quella che voi dite, ci sia un'apertura del Papa, ma mi sembra andare un po' oltre a quanto invece abbia detto lui. Per cui io prima vi ascoltavo e dicevo, vabbè, ha detto poco il Papa, perché ha detto solo chi sono, ecco, io per giudicare, però appunto, dico, quel poco che si presta a interpretazioni, ma insomma, no, tirarlo per la giacchetta è l'unico che del Papa non si può dire, si perché può non dire. Ha la giacchetta il Papa, scusa, no. Al massimo andrebbe tirato non so per cosa, però come non si è chiama, neanche corretto che qualunque persona possa dire qualcosa, allora io prendo il pezzettino che a me serve per far passare il discorso che voglio far passare io. Allora quello che dico io è, prendiamo per quello che ha detto, e allora viene rispettato quanto ha detto Giovanardi, nel senso, vengono rispettate qualunque persona, che sia omosessuale, che sia eterosessuale, ma non andiamo oltre. Perché sì, però puoi dire... deve tenere conto che noi partiamo da una situazione nella quale, per esempio, alcuni diritti civili degli omosessuali che vivono in coppia non sono tutelati, e quindi si parte da una situazione, diciamo, di esposizione, di debolezza, di fragilità, e quindi se dobbiamo tutelare tutti dobbiamo fare questa legge, per esempio, e questa è una cosa che invece fino ad ora non c'è stata, e sicuramente anche la Chiesa era contraria a questo. Adesso non lo so, dopo questa frase del Papa, come se cambieranno certi equilibri, non so se ha seguito il ragionamento e se è d'accordo, ecco, oppure che dico io è imparare a dire le cose come sono, nel senso, il verde sia verde e il rosso sia rosso. Ma non iniziamo a partire da tutti, questo per amor di Dio, a partire da tutti, a prendere solo il pezzettino che ci interessa, da lì nascerà un vero confronto e da quello lì sicuramente nasceranno cose buone. Grazie. Però il pezzettino è tutto quello, sì, che ha detto il Papa. Noi abbiamo fatto sentire il pezzettino, che è quello che ha detto il Papa, lui ha detto esattamente, sì, queste però parole. Chi sono io per giudicare un omosessuale? Punto. Abbiamo costruito sopra queste parole un discorso, sì, sì, che il nostro Andrea, insomma, Alberto, anzi, non è d'accordo. Va bene, grazie. Andiamo invece proprio ad Andrea, che ci chiama da Bologna. Andrea, buonasera. Buonasera, allora io avevo chiamato proprio per intervenire sulle parole del Papa, però diciamo che dopo che ho sentito questo ultimo ascoltatore che ha chiamato, voglio proprio ribadire ulteriormente il concetto. Le parole del Papa secondo me sono rivoluzionarie per la portata che hanno, ma più che, diciamo, per quello che poi effettivamente possono creare, secondo me servono anche per finalmente far scoprire tutti questi ipocriti, come i tanti politici italiani che si nascondevano dietro la Chiesa per diciamo, negare dei diritti civili legittimi da parte degli omosessuali, e ancora di più queste persone come questo ascoltatore che ha chiamato, che fa dei ragionamenti di un'ipocrisia aberrante. Cioè lui dice, no, ma dobbiamo non ho chiamato per dire male alle parole che ha detto il Papa, ma in realtà voi avete sbagliato a interpretarlo, perché lui non legittima gli omosessuali, ma gli omosessuali non hanno bisogno di una legittimità della Chiesa. Dove sta scritto? Cioè, dove sta scritto che un uomo omosessuale, una coppia omosessuale, deve avere la legittimità della Chiesa o del Giovanardi di turno, del politico di turno? Un omosessuale non deve avere la legittimità della Chiesa, ma dallo Stato. Deve chiedere i suoi diritti allo Stato in cui vive. E dobbiamo finirla con questa idea che abbiamo bisogno che la Chiesa legittimi gli omosessuali per dare la possibilità allo Stato di riconoscerli. È un mondo che è finito, e secondo me le parole del Papa stanno proprio in quell'ottica. Stanno in quell'ottica perché dicono allo stesso Stato italiano, il Papa di tutti, non è il Papa dei politici italiani, cioè basta nascondersi con questa ipocrisia. Va bene, Andrea, grazie. Che dire, insomma, poi ci torniamo su all'800 24 00 24, sicuramente con gli interventi degli ascoltatori. Adesso salutiamo il nostro prossimo gradito ospite, Sergio Cofferati, buonasera. Buonasera a voi. Europarlamentare del PD, col quale, se vuole anche l'attesa per questa decisione della Cassazione su Berlusconi, qualcuno dice che non ha senso commentare qualcosa che deve ancora avvenire, a stretto rigore di logica non ha tutti i torti, però insomma sappiamo quali sono le ipotesi, se ci sarà una condanna o se non ci sarà questa condanna, e la questione dell'interdizione, no? dai pubblici uffici. Cosa dovrebbe fare secondo lei Berlusconi se la condanna fosse definitiva, Cofferati? A quel punto non dovrebbero esserci dubbi, si applica la sentenza e dunque c'è l'interdizione. Col passaggio del voto al Senato e basta. Ma qualora il PDL, come molti dicono di no, ma insomma l'ala un pochino più agitata in queste ore, facesse appello alla piazza, continuasse a parlare di colpo di Stato se non colpo di scena, accusando i magistrati eccetera eccetera, cosa che è all'ordine della cronaca di questi giorni, bisognerebbe cercare una mediazione politica, oppure c'è la sentenza, punto e basta? No, guardi, io non credo che Berlusconi nel caso di condanna deciderà di mettere in crisi il governo. La sensazione è di tutt'altro genere, di tutt'altra natura. I tempi delle eventuali difficoltà del governo non mi paiono legati alla sentenza, anche se ci potrebbero essere comportamenti difformi dalle stesse intenzioni di Berlusconi da parte dei parlamentari del suo partito, di alcuni parlamentari del suo partito. Io penso però che di fronte ad una sentenza ci sia una sola strada, che è quella del rispetto della sentenza e della sua applicazione. Non è proprio il caso di immaginare scenari diversi, né la ricerca di una mediazione politica, né l'ipotesi di costruzioni di maggioranze diverse da quella attuale. Bisogna seguire gli avvenimenti passo dopo passo. Se c'è una sentenza, questa va applicata e rispettata, poi decidono liberamente le forze politiche, in questo caso la Casa delle Libertà, cosa intende fare. Ma da parte del mio partito è auspicabile fermezza e nessuna deviazione da quella che secondo me dovrebbe essere il naturale e logico comportamento. Ma qualcuno, per esempio anche Sposetti, che è un membro del suo partito, oggi in una dichiarazione di ieri sulla stampa di oggi, dice che a rischiare di più in caso di condanna è addirittura il Partito Democratico, cioè il suo partito, perché dice un partito allo sbando, senza dirigenza, di fronte ad una condanna di Berlusconi, comunque ad una sentenza che avrebbe un effetto detonante sicuramente, il PDL potrebbe addirittura rafforzarsi nella difesa attorno comunque alla figura del suo leader, e il PD invece sarebbe a rischio di implosione. Lei che ne pensa? Ipotesi paradossale quella di Sposetti. Rispettabile come tutte le opinioni, però priva di fondamento. Non vedo il nesso tra lo stato di difficoltà, a volte addirittura di afasia, del mio partito, che ognuno vede. Non c'è niente nascosto, di riservato, è tutto molto trasparente. Ma forse perché sì, sì, gli effetti della sentenza. Però questo legame con Ferrati, glielo suggerisco io, quale potrebbe essere, cioè che una parte del Partito Democratico di fronte alla sentenza definitiva di condanna di Berlusconi, l'interdizione dei pubblici uffici, potrebbe dire non si può governare con un partito il cui leader è in queste condizioni, e quindi potrebbe tirare la corda per fare esattamente l'opposto di quello che lei auspicava dovrebbe fare il PD, cioè stare lì tranquillo al governo col PDL. No, non auspicavo questo, volevo dire una cosa diversa, allora provo a rimettere le cose in ordine. Se Berlusconi viene condannato, c'è l'interdizione dei pubblici uffici e dunque bisogna applicare questa sentenza e arrivare alle conseguenze del caso, cioè all'uscita di scena di Berlusconi, punto. Poi a quel punto sarà la Casa delle Libertà a decidere che cosa vuole fare. Se decide di abbandonare il governo, il capo dello Stato a quel punto interverrà e promuoverà o la ricerca di una nuova maggioranza oppure lo scioglimento delle Camere, perché non essendoci le condizioni per fare un governo diverso da quello attuale bisogna arrivare lì, passo dopo passo, senza fughe in avanti e senza prefigurare scenari diversi da quelli che sono nell'ordine delle cose. Quindi, peraltro sono convinto che rispetto al governo attuale e alla fase politica ed economica che stiamo vivendo, la cosa più importante in una situazione di crisi di questa natura sarebbe quella di fare rapidamente una nuova legge elettorale per tornare a votare. Dunque si figuri se immagino uno stato di conservazione artificiale della situazione in essere. Però come mai poi questa legge elettorale che viene evocata continuamente in maniera quasi ossessiva sui giornali, il capo dello Stato lo dice, poi però chi sta al governo in maggioranza adesso, lo stesso Letta, prefigura dei tempi sì di intervento, però non vive questo come un'urgenza, perché è chiaro che finché non c'è la legge elettorale il governo è come se avesse una garanzia a vita, no? Perché sappiamo tutti che non si può andare alle elezioni di nuovo rischiando quello che abbiamo già vissuto. Come mai questo secondo lei, Cofferati? Domanda assolutamente legittima. Io penso che il mio partito, soprattutto nella componente che sta al governo, stia commettendo un errore, ma adesso senza divisioni tra chi è al governo e chi è fuori. La legge elettorale è un'assoluta priorità, perché se no si dà un segnale sbagliato e negativo e si contravviene a quello che abbiamo detto fin dall'inizio. Il governo Letta era un governo a tempo, dettato da una situazione assolutamente straordinaria e che aveva non soltanto un tempo limitato di prevedibile durata, ma delle priorità che erano di carattere economico-sociale e, per quanto riguarda le riforme istituzionali, avevano nella legge elettorale l'assoluta priorità. Se non si segue il filo coerente di quello che abbiamo detto, si commette un errore e si danno messaggi molto negativi agli italiani, perché si dà la sensazione di voler restare lì a prescindere da quello che ci si era impegnati a fare. Lei pensa che il governo Letta stia durando, non dico troppo perché adesso è in carica da pochi mesi, ma insomma l'ordine del giorno dei lavori che viene prefigurato, per esempio questo iter di 18 mesi per le riforme istituzionali, sia un po' troppo lungo? È in contraddizione esplicita con quanto è stato detto al momento della nascita del governo, ma avevo già commentato con un suo collega il discorso di insediamento di Enrico alle Camere prefigurava una quantità di iniziative che necessitavano di una legislatura abbondante. Dunque c'è un'evidente contraddizione tra le cose che si dice di voler affrontare per arrivare ad una conclusione e l'impegno che si era preso all'inizio. Peraltro, aggiungo, fin qui purtroppo le azioni di carattere economico e sociale non sono tali da confortare gli italiani, perché è alle viste un cambio di andamento della nostra economia o c'è un sollievo delle sofferenze sociali. Le azioni del governo risultano in larga parte inefficaci. Dunque non solo si annuncia un allungamento dei tempi, ma dall'altra parte non ci sono risultati concreti, tant'è che tutti gli indicatori economici sono vistosamente negativi, comunque non segnano un rovesciamento di tendenza di nessun genere. Mm. Senta, venendo invece in casa del PD, c'è questo dibattito in vista delle primarie, del congresso, ci sarà anche un appuntamento della direzione, credo, questa settimana. Intanto le voglio chiedere, la sensazione che hanno, credo, gli elettori del PD è che il PD abbia in mano la carta da giocare, cioè quella di Renzi, ma che faccia di tutto per tenerla in mano, per non giocarla. Una forma di autolesionismo? Ma guardi, bisogna anche lì procedere con un minimo di buonsenso, che è una categoria prepolitica. Come noto, però, con grande rapidità, usciamo da mesi difficilissimi per errori clamorosi che abbiamo commesso e che ci hanno portato a perdere le elezioni, perché il dato oggettivo finale è questo, e poi a ripetere ancor più clamorosamente errori durante la fase delicatissima dell'elezione del Presidente della Repubblica. Questo stato di cose che abbiamo alle spalle necessitava di un congresso immediato. I tempi del congresso dunque sono già consumati, avremmo dovuto cominciare già da prima il congresso. Non si può più rinviare una discussione con i nostri iscritti e con le persone che guardano a noi con attenzione e nonostante tutto con fiducia e simpatia. Poi le regole del congresso devono essere quelle che abbiamo utilizzato nel corso delle ultime fasi primarie aperte congressuali. Mi sembra di capire la sua posizione. Peraltro, il segretario è bene che venga legittimato con la stessa modalità che si utilizzerà per il candidato premier. Quindi lei è per la distinzione? Uno è più. Distinzione sì, anzi la distinzione utile e non più rinviabile. Fonte di legittimazione però uguale. Se non un soggetto è più debole dell'altro, questo però, non va bene. Ma però scusi, cosa fa il segretario del PD se non è il candidato leader poi della coalizione della quale il PD è il principale azionista? Cioè si torna allo schema Prodi, no, con i partiti? No, mi scusi, ma lo schema della distinzione tra la rappresentanza politica e quella istituzionale è uno schema diffuso in Europa e nel mondo. Non c'è anzi, io penso che per molti versi dovremmo cominciare a concepire il ruolo dei partiti come un ruolo importante nella loro funzione di parte di un governo. Parliamo normalmente di governi di coalizione, come ben chiaro, e dall'altra parte però anche con uno spazio autonomo. L'appiattimento di un partito sul governo, perché il suo segretario è anche il presidente del Consiglio, dura lo spazio di un mattino. Perché poi bisogna comunque eleggere un segretario di partito e a quel punto riprende il tema e la discussione su quale deve essere il rapporto tra governo e partito. Io credo che l'autonomia di un partito nei confronti di un governo del quale fa parte possa essere un valore, se gestita con un po' di, come le dicevo, di attenzione e di buon senso. Va bene, grazie anche a Sergio Cofferati per essere stato con noi. Buona serata. Buonasera. Buona serata. Ci fermiamo qua, facciamo una breve pausa, poi tra poco avremo i titoli dei telegiornali di mezzasera, ancora degli altri ospiti, Carlo Gabardini, c'è qualcosa su Twitter, hai visto qualcosa? Ma c'è un sacco di roba, non mi devi più chiedere che c'è qualcosa su Twitter, c'è tutto il mondo su Twitter, non niente a nessuno, c'è poi tutto, di tutte queste cose. Ma non posso leggerti tutto. Va bene, ci fermiamo, c'è una Twitter. Pausa, 800 24 00 24. And now, the good news! Eugenio Venditti ha investito 50.000 euro in una giovane impresa di software per l'arte e l'antiquariato che ha un database unico al mondo. Per questo è stato premiato come miglior business angel dell'anno. Angelo sì, ma con l'interesse. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. L'attualità. Anche d'estate. Riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Dario dalla provincia di Milano, quando partono i titoli del TG della 7, però la interrompo. Dario, prego. Buonasera. Al di là delle... Ecco i titoli, anzi no, c'è la breve pausa tra un attimo, prego. Ok, sarò breve. Al di là delle mie convinzioni politiche, non voglio prendere le posizioni sull'eventuale condanno o meno dell'ex Presidente del Consiglio. Quello che vorrei capire è il nesso logico tra la sopravvivenza del governo e le sorti di Berlusconi. Io non ce lo trovo. Credo che Berlusconi sia un cittadino come gli altri, ovviamente, quindi abbia un collegio di difesa molto potente, molto competente, sia in grado di difendersi anche senza l'intervento dei suoi parlamentari. Titoli. la strage del pullman caduto ieri sera da un viadotto dell'autostrada Napoli-Bari in provincia di Avellino. La procura indaga su più fronti. L'unica certezza è l'elevata velocità del pullman nell'ultimo chilometro della sua corsa, dovuta quasi certamente a un guasto tecnico. L'autista avrebbe tentato in extremis di rallentare, ma troppo tardi. Ci sono degli indagati. Si parla di un reato comunque colposo. E l'ultimo bilancio ufficiale, quello definitivo, è di 38 morti e di 10 feriti. Domani saranno celebrati i funerali, 28 delle vittime erano di Pozzuoli. Il governo ha proclamato il lutto nazionale. La più giovane delle vittime aveva 16 anni. Tra i 10 feriti ci sono 2 bambini in gravi condizioni. Dopo Rio de Janeiro, lo stile diretto di Papa Francesco sorprende anche durante il viaggio di ritorno. Sull'aereo dice, rispondendo alle domande dei giornalisti, chi sono io per decidere su un gay, per giudicarlo? Un conto è il singolo, un conto sono le lobby che sono sempre cattive. E apre ai divorziati che si sono risposati, è tempo di misericordia per loro. Sullo IOR dice non so come finirà ma deve cambiare, e sulle donne un'apertura importante. Domani l'udienza della Cassazione sui diritti Mediaset, ma la sentenza a quanto pare su Berlusconi potrebbe slittare al giorno successivo, se non addirittura di diversi giorni, nel caso in cui i legali del Cavaliere dovessero chiedere un rinvio. Altri segnali di possibile ripresa per l'economia italiana. Secondo l'Istat cresce l'indicatore della fiducia delle imprese, che sale di oltre 3 punti da giugno a luglio. Uno spiraglio di ottimismo che arriva da tutti i settori, dalle imprese manifatturiere al commercio al dettaglio. Tornano a salire anche le retribuzioni, più 1,5% rispetto a un anno fa, e dopo tanto tempo crescono più dell'inflazione. Nel pomeriggio e nella serata trombe d'aria e violenti nubifragi si sono abbattuti sulle regioni del nord-ovest, Liguria, Piemonte, Lombardia. Un'ondata di maltempo irrompe così nella torrida estate italiana e sferza le regioni del nord-ovest. Alberi sradicati, strade allagate, ma soprattutto ingenti danni già segnalati all'agricoltura. Il nostro sondaggio settimanale sulle intenzioni di voto degli italiani, recupero del PD nonostante le divisioni su regole del congresso e si porta il partito di Epifani al 26,8%, ma è sempre davanti il PDL al 27,2%. Cresce ancora il Movimento 5 Stelle al 20,6%, ma cresce soprattutto l'astensione. In calo di un punto la fiducia in Enrico Letta. Era la lunga litania mentaniana ai titoli da 7. Adesso riprendiamo Dario che ci stava chiamando dalla provincia di Milano, l'avevamo interrotto. Dario, prego. Sì, cerco di essere breve. Stavo dicendo appunto che il diritto di difesa di Berlusconi è un sacrosanto diritto di difesa e il diritto della tenuta del governo è un diritto di tutti gli italiani e quindi non capisco come mai le due cose debbano essere legate. Io credo appunto che i parlamentari del PDL assolutamente non dovrebbero legare le sorti di Berlusconi alle sorti del governo. Trovo che questo sia una specie di ricatto e lo trovo francamente poco accettabile. Questo indipendentemente poi da quella che sarà la sorte della questione Berlusconi. Un'ultima cosa molto veloce, sono abbastanza contento della conversione dell'onorevole Giovanardi, che in passato ha fatto delle dichiarazioni fortemente omofobe e che sembra invece che si sia illuminato dalle parole del Papa, e questo non può che farmi piacere. A un certo punto ha detto, se non ricordo male, che il Papa ha detto quello che diceva lui. Che diceva lui prima. prima di che le dicesse il Papa. Grazie Dario. Io ricordo che sì, è stato in passato donatore insomma di dichiarazioni fortemente omofobe che sono dal mio punto di vista molto poco condivisibili. L'apertura del Papa è un'apertura molto importante che io personalmente trovo estremamente caldeggio moltissimo e sono contento che l'onorevole Giovanardi faccia l'endorsement di questa. Grazie Dario. Oh, l'apertura, io insisto, c'è stata. Quelle parole lì non è che possono essere, cioè possono essere interpretate e non vanno tirate per la giacchetta perché il Papa non ce l'ha, ma nemmeno in altri sensi metaforici. Però insomma, mi sembra che non a caso tutti ci titolano, tutti ne parlano, perché sono effettivamente parole inedite per un Papa. Facciamo i titoli del TG1. Strage in Irpinia, 38 i morti, Napolitano, sciagura inaccettabile, domani lutto nazionale, il premier Letta a Pozzuoli per i funerali. Inchiesta per omicidio colposo e disastro colposo, il pullman fuori controllo, il racconto di una sopravvissuta, 5 bimbi gravi soli in ospedale. Il premier Letta da Atene, sono sereno, non ci saranno terremoti, Italia molto più stabile di quanto si creda. Domani udienza in Cassazione sul processo Mediaset, cresce l'attesa per il verdetto, la sentenza non prima di mercoledì. Chi sono io per giudicare un gay? Papa Francesco apre a omosessuali e divorziati, ai giornalisti dice in aereo, le lobby un problema grave. I 100 anni di Priebke a Roma, scritte neonaziste, proteste sotto casa dell'ex SS, tensione all'arrivo di un amico con lo champagne. Dopo la sconfitta a Budapest, Montezemolo bacchetta Alonso per le sue dichiarazioni polemiche, basta sfoghi a tutti i grandi campioni, è sempre stato richiesto di anteporre interessi della Ferrari a quelli personali. 20.07, ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, ancora uno spazio per intervenire, per i vostri interventi. Priebke non era oggi uno dei top trend, Gabardini, lei che è lì. Non lo è stato quasi Twitter. Mai. A un certo punto sì. È uno dei top trend da 100 anni, diciamo, il suo compleanno oggi. Tra l'altro è anche il compleanno di Mussolini, sono nati lo stesso giorno, non lo no. Sapevo. Sì. Veramente? Sì. Cioè si parla di quello di Priebke, non si parla di Mussolini, che normalmente... Perché Mussolini non ce l'ha fatta arrivare fino ad oggi, mentre Priebke è ancora vivo. Quanti diciamo. Anni avrebbe Mussolini? Beh, sai che... 30, tipo. No, meno. Secondo me poteva essere quasi coetaneo di... No, un po' più grande. No. Poteva essere il genitore, una cosa del genere. No, non so la data di nascita dell'anno di Mussolini. Va bene, chi abbiamo? Un po' di ascoltatori in attesa. Io farei Carlo, che ci chiama da Roma. Ah, pensavo io. E invece tu sei da Milano, questo è da Roma. Esatto. Carlo? No, sono io da Roma, buonasera. Eccolo. Buonasera, prego. Benvenuti in bocca al lupo per questa avventura estiva. Crepi, senz'altro. Crepi. Grazie. Io parlo solo ora, però io sono partito dalle 18.40 quando ha chiamato quel Franco. Franco penso... stasera ha proprio assegnato la serata. Sì. Innanzitutto ho tantissimo rispetto perché presumo dalla voce così potrebbe essere mio padre, quindi rispetto assoluto, però sono veramente stanco. Io sono di destra da sempre, ho 48 anni, quindi diciamo più o meno 30 anni che voto, sono di destra da sempre per delle mie idee, per delle mie motivazioni, adesso è inutile stare a perdere tempo, e sono annoiato da tutti quelli di sinistra che dicono che noi di destra siamo di destra perché siamo o faccendieri, o perché ci fa comodo, o perché siamo delle vecchiette cretine che non sappiamo votare altro. Basta. Io insomma, cioè, non puoi essere un attore se non sei di sinistra, se sei di destra non sei culturalmente alla pace, non puoi lavorare. Non puoi essere un cantante perché se sei di destra, no, ma dici delle cose che non funzionano. Basta, si può essere di destra, avere un dialogo, contrapporsi, una volta vincono loro, una volta vinciamo noi, basta. Ma insomma di destra siamo anche persone di cultura, gente che abbiamo studiato, che abbiamo le nostre idee. Ma infatti c'era il 10% nell'analisi di Franco, c'era 30-30-30, poi mancava il 10% e c'è anche dell'altro. Le volevo leggere e dedicarle, però non lo trovo più tra gli SMS, c'era un ascoltatore che aveva scritto l'analisi degli elettori di sinistra, no? Il 30% di statali fannulloni, un 30% di fighetti, snob, non mi ricordo le altre due percentuali. Sono luoghi comuni, però è vero anche che a volte... 30% di attori forse. Di attori? No. Non so, questo no, sei tu che sei della categoria. No, l'80% mi si fidi. In che senso? L'80%... cosa fanno? Attori di sinistra, se no non lavori. Quindi è vero che bisogna essere di sinistra per essere attore, cioè che se uno fa l'attore è di sinistra. Ma non sei una persona di cultura se non sei di sinistra. Noi siamo beceri. Noi pensiamo soltanto al denaro, a divertirci, a andare a donne, possibilmente a mettere le corna alla moglie, perché quello di destra mette le corna alla moglie. Beh, anche quello di sinistra, no. No, non è corretto. No, nel luogo comune vuole dire, ascoltatore, nel luogo comune. Mia moglie, guarda, mi piace un'altra, sono andato a letto con lei, e la moglie di sinistra dice, va bene, è stato uno sbando, va bene. Però le corna ci sono, le corna sono bipartisan, assolutamente, direi. Certo, cosa succede poi nella realtà non lo può sapere nessuno. Però se guardiamo alla rappresentazione politica, per esempio, di un leader come Berlusconi, che della sua vita privata ha fatto anche una bandiera, beh, certo, questo ci induce anche a pensare. Poi guardiamo, che ne so, Fassino, Renzi, Veltroni, sono tutti con famiglia, vanno anche a messa tra un po', ho capito. È una rappresentazione dell'Italia. È come Casini, che fa parte il cattolico, poi anche lui c'è gli scagli degli armati, no? Cioè, voglio dire, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma guardate che io sono di destra e mi rammarico di avere come leader un Berlusconi, perché faccio fatica anch'io in qualche situazione. Però adesso, comunque sia, è quello e va bene. Io sono rimasto indietro, anche Fini mi ha deluso, io stavo bene prima di lui. Adesso poi... come fa lei che è elettore di destra? Fini l'ha deluso, Casini fa schifo, Berlusconi non ne parliamo. Forse anche Franco nella sua telefonata, siccome condivido quello che sta dicendo, cioè in realtà non mi sembra, la differenza è un po' che lei dice fa una differenza, diciamo, fra la destra e Berlusconi, e quello, diciamo, l'elenco che faceva Franco era gli elettori di Berlusconi sono questo tipo, al di là delle percentuali che sono roba sua. Ha capito che distinzione è andata a beccare Gabardini? Lo dico nel senso che ovvio, certo che si può essere di destra e anche intelligentissima, ci mancherebbe altro. Grazie. No, non sono assolutamente, poi io sono un cretino, quindi non vale niente quello che dico io. Non volevo essere ironico, quello che volevo dire è che forse quello che stava dicendo Franco era facendo una distinzione fra l'elettore di Berlusconi e la destra, tra l'altro, anche volendo, dicendo, parlando anche di destra storica, di tutt'altro, che non è Berlusconi nasce socialista, ma anche Mussolini, quindi insomma, questo non è che... Io ero al grato nel 94 perché ci aveva sdoganato. Io sono uscito da un comizio di Alleanza Nazionale nel 94 e ho fatto come Dante e Virgilio, siamo tornati a vedere le stelle, perché ero contento di questo. Poi anche lui mi ha deluso. Risponda a questa cosa. Adesso chi potrebbe essere un po'... Marina Berlusconi, per esempio, andrebbe bene come leader del centrodestra? O ci vuole? No. Offende la sua intelligenza a farmi questa domanda. La mia? No, non si preoccupi, per quella è già andata. No. Cioè, se parliamo tra persone che hanno un senso compiuto della politica, facciamo dei ragionamenti seri. Se no, certo, noi un Renzi non ce l'abbiamo. No, ma era una provocazione dire Marina, ma ci faccia lei un nome. No, non è una provocazione, perché è un'ipotesi politica di cui si parla. Io la trovo un'ipotesi lunare, anche io sono d'accordo con l'ascoltatore, però è sul campo. Non ce l'ho. Io nel 78, nel 79, questo giovane delfino di Giorgio Almirante... Vabbè, adesso però... Non torniamo a quello, perché sennò la finiamo più. Lasciamoci così, lei non ce l'ha, il leader del centrodestra, in effetti non ce l'ha nessuno. Anche lui ci ha deluso. No, era per dire, anche lui dopo 30 anni ci ha deluso. Capisce che oggi nella destra non ci abbiamo il Renzi di turno. E va bene, questa mi sembra una conclusione pacifica. Alcuni maligni dicono che ci avete proprio Renzi, ma questa è un altro tipo di polemica. Guardi, meno male che non si è presentato, perché io lo votavo di corsa. Hai visto. Renzi come leader del centrodestra non è male, leader degli elettori di centrodestra che non hanno un'alternativa a Berlusconi. Questo è una realtà, insomma, questo mi sembra che stia diventando sempre di più una realtà. Tempo agli altri. L'ultima cosa volevo dire, non è questione, bisogna finirla con la destra e la sinistra, col partito comunista, il fascista. Io sono antifascista per definizione, sono nato 50 anni fa, era già finito da molto il fascismo, quindi io sono di destra per certe idee, e se su certe idee Renzi mi viene incontro, perché non lo devo votare? Giusto. Bravo Carlo, l'importante è seguire le idee e cambiare anche ogni tanto, perché sennò non avrebbe senso. Carlo, basta però, perché lei è un fiume in piena, noi dobbiamo fermarci, dobbiamo fare il traffico, poi torniamo ancora, abbiamo qualche ascoltatore, poi un altro ospite, intanto traffico. And now, the good news! Quando la star è al servizio della solidarietà. Se hai un amico che adora un VIP, regalagli un momento indimenticabile. Acquista per lui sul sito charitystars.com la maglia autografata o la cena con la star. Gli incassi andranno in beneficenza. Very important portafogli. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Allora, c'è Antonio a Brescia che ci ricorda intanto che Mussolini è nato nel 1883. Oggi avrebbe quindi compiuto 130 anni. Beh, sono tanti per chiunque. Beh, bingo, scusami, io ho dato una risposta, la risposta, ho detto 130 giusta, l'hai data anni, giusta. Ci tenevo così a ritirare il premio. Questo ti va tutto, questo premio qua. Tra l'altro, oggi è nata anche mia figlia, non c'entra nulla, però. No, veramente. Sono nati tutti oggi. Tutti. Hai fatto tu la tua squadra, cioè Mussolini, Priebke e tua figlia. È mia figlia. Intanto sono tre cose di cui si parla, almeno a casa mia. Giusto. Abbiamo ancora un po' di ascoltatori, non so se riusciamo a farli tutti. Chi abbiamo da più tempo? Usiamo questo criterio, così andiamo in basso. Davide da Frosinone, buonasera. Buonasera a voi. Eccolo, prego. È una domanda che non, diciamo, ho perso un po' il filo del discorso. Sì. Ma il processo Berlusconi da quant'è che è, diciamo, in piedi? Il processo Berlusconi in piedi, adesso lei ci fa delle domande da un po' tantissimo tecniche, eh. Questo qui è quello dei diritti d'autore, dei diritti dei film, quindi. Ma io qua un po' d'articoli di giornale, esattamente l'anno. Ma perché ci fa questa domanda? No, perché per dire che è cominciato nell'autunno del 2006, ecco, vede. Forse per me io lo assolverei tranquillamente. Questo che c'entra con quando inizia? Cioè lei ha esordito dicendo quando è cominciato questo processo, io lo assolverei. Perché ha fatto questa situazione? Ma io sinceramente non è perché ho sposato questa causa, nel senso che sono. Però a me mi manca se per puro caso viene assolto, cioè viene condannato, mi manca il carnevale che stiamo vedendo ogni giorno. Non ho capito niente, scusi. Se viene condannato le manca il carnevale che stiamo vivendo ogni giorno? Il carnevale politico ed istituzionale, il carnevale del Partito Democratico, che sono stati 20 anni a dirvi tutte quante le cose contro, il carnevale dei sindacati, il carnevale degli attori, dei grandi. Cioè, lei però è ironico, le manca. Cioè, il carnevale, sì. Tutti questi che se la prendono con Berlusconi, se condannano Berlusconi, sì. Lo tirano fuori, poi le mancherebbe questo. Però lei, che è un sostenitore di Berlusconi, le mancherebbe anche Berlusconi stesso. No, a me, io non sono sostenitore di Berlusconi, preciso. Cioè, perché io adesso dovrei essere sostenitore di Berlusconi? Sembrava, perché ha esordito dicendo che lei lo assolverebbe e che le critiche a Berlusconi sono state un grande carnevale, allora io ho fatto un'associazione, sa com'è? 2 no, più 2. Ma io sono uno spettatore non pagante e vedo quello che ogni giorno mi viene a raccontare. Se è italiano non pagante non lo direi, perché stiamo pagando proprio tutti. Vabbè, sotto questo aspetto sì, però sinceramente, cioè, non è le freddure di Gabardini, bisogna prenderle così, uno ci pensa un attimo e poi dice cacchio. No, un'altra cosa posso per chiudere? Sì, anche due. Per la situazione di Prib, che avrà le sue responsabilità, per carità, ci mancherebbe, però io in strada non ho visto a novembre, quando, diciamo, sono stati arsi vivi palestinesi protestare contro Israele, io non ho visto mai nessuno, anche la vostra radio ha assecondato un po' tutta quanta questa storia. In Italia io l'avevo anche anticipato in altre radio e tramite una azionista, diciamo, italiana, cioè che fa scopi umanitari lì a Gaza, cioè che c'era in atto questa serie di crimini contro questo popolo, e godiamoci Berlusconi, il centrosinistra e tutto quanto il resto. Allora vabbè, io mi fermerei qua, anzi anche troppo forse, perché l'ultima parte, a parte lei, non si capiva granché. Stefano da Ancona, buonasera. Buonasera. Prego. Niente, volevo intervenire riguardo alle dichiarazioni del Papa, che a me non sembra niente di nuovo. Come voi l'avete descritta, sembrava che avesse fatto dichiarazioni così stellari, no? Magari cioè lei si ricorda altri papi che hanno detto queste frasi qua? Hanno detto... No, la sostanza non cambia, cioè dirlo con un sorriso tipico di questo Papa, piuttosto No, ma non dire, il sorriso, la frase proprio, io non lo so. Ma, no, non... ma piuttosto che dire, capito, noi non ce l'abbiamo con gli omosessuali, hanno col peccato naturalmente, cioè magari fosse un'apertura stellare, questo volevo dire. Quindi dire, capito, che abbia fatto chissà quale apertura, a me... suona come una controinformazione quasi, cioè una sbagliata informazione, ecco questo, perché non ci illudiamo che se uno va a fare delle domande, cioè a stringere, non cambia niente, io credo, capito? Questo era il concetto di... Beh, però un papa che dice i gay non sono un problema, io diciamo non l'ho mai proprio sentito, ma tipo mai... Ma nessun papa diceva i gay di per sé sono cattivi o che altro, sono così, cioè è il peccato che non va fatto, oppure che noi non possiamo aprirci alle pratiche, diciamo, però loro non sono... cioè non possono giudicare la coscienza di un uomo, l'hanno sempre detto tutti, dopo dirlo un po' striminzito come faceva il vecchio Papa e dirlo col sorriso questo sembra... Guardi, adesso quale... però è no, lei no. E anche secondo me altri ascoltatori che fate un po' di dietrologia su questa frase, bisogna rimanere alle parole di questo Papa, che Papa Ratzinger, lei si immagina Papa Ratzinger che poteva dire una frase del genere onestamente? Ma io adesso non ricordo, però sicuramente nessun papa avrà detto, allora. Ma ci sono dei santi dichiaratamente omosessuali, quindi non è che è una cosa per dire, capito? Non è la persona in sé. Quindi un santo che si dichiara omosessuale vuol dire che sente forte il desiderio di quella cosa lì, però non fa il peccato, quando lo fa, capito? Quindi è tutta una dinamica, capito? Quindi Giovanardi, cioè sì, il politico che avete intervistato, non sbaglia dicendo che non c'è niente di nuovo, capito? C'è il sorriso di questo Papa, però è che non è niente di più. È nuovo profondamente nei contenuti, mi scusi, non è vero, nel senso che dire espressamente essere gay non è un problema, chi sono io per poter giudicare? E invece normalmente certo che è stato giudicato, c'è anche gente che è morta bruciata, quindi non diciamo che... Possiamo andare avanti tutta la serata, ognuno la penserà diversamente, perché poi su queste poche parole... tirandole da una parte o dall'altra non si va da nessuna parte. Grazie a Stefano. Adesso però invece cosa facciamo? Chiudiamo con questa intervista qua, sì. Oh, siglettina, introduzione. Guido Ponsini, buonasera. Salve. Chi è Guido? Guido è un giovane musicista che insieme ad una compagna di musica ha fondato un duo famoso nel mondo e che ha avuto anche un premio e che adesso sta cercando di mettere in piedi un'orchestra particolare, un'orchestra dei precari, un gruppo di giovani. Intanto l'orchestra l'avete messa a punto, ci sono già tutti i componenti? Sì, sì, tra l'altro siamo in due a parlare, c'è anche Miriam. C'è anche Miriam, benissimo, ti ha raggiunto, perfetto. Guido e Miriam, MG. Salve. MG Duo, che sta fondando l'MG Inc. Orchestra. Sì. Questo è il vostro sogno perché? Perché voi volete testimoniare della difficoltà che c'è per dei giovani musicisti italiani ad emergere, a fare qualcosa. Pensiamo solo alla questione del Maggio Fiorentino, quanto si è parlato della fondazione che è in crisi, che non ce la fa andare avanti. Pensate quanto può essere difficile per dei giovani bravi musicisti premiati all'estero che però in Italia non trovano spazio. Guido. Sì, infatti questo progetto è nato inizialmente come una sfida. Volevamo appunto creare un ensemble, che poi adesso è diventato un'orchestra, di giovani talenti e che quindi creare un'opportunità che poi vuole diventare lavorativa e stabile, appunto per chi esce dai nostri conservatori alla fine impiega 10 anni della sua vita a studiare uno strumento e poi si ritrova senza alcun lavoro. Ma poi anche da parte nostra è nato, abbiamo notato come vi fosse un aspetto sociale in quello che facciamo, nel senso che noi riteniamo che alla base anche della crisi attuale dell'Italia vi sia anche una crisi culturale, nel senso che per anni si sono organizzate cose di musica contemporanea, intanto contemporanea che comunque ha 100 anni, perché spesso come musica contemporanea si identifica tutta quella del periodo dell'avanguardia del Novecento, e in più si sono sfruttati i finanziamenti pubblici senza preoccuparsi di creare un pubblico interessato che quindi poteva contribuire attivamente alla fruizione musicale, per cui diciamo che noi promuoviamo un investimento nei giovani talenti e nella cultura. Tra l'altro c'è anche un meccanismo che ci ricordavi l'altra volta che ci eravamo sentiti, infernale, che riguarda la SIAE, che avrà tutti i diritti di chiedere i diritti, che però penalizza chi esegue musica nuova, musica contemporanea, cioè si paga meno diritti suonando Bach, che sarà bellissimo, però tutti lo conoscono, anziché interpretare cose nuove. Sì, infatti c'è, praticamente in Italia il problema della contemporaneità è che da una parte è ipertassata, perché comunque organizzare un concerto di Bach a livello proprio di SIAE costa molto meno che organizzare musica contemporanea. Dall'altra, i canali solitamente utilizzati per promuovere la musica contemporanea, diciamo quelli accademici, promuovono esclusivamente una musica che viene creata ed eseguita sempre su modelli legati appunto alle avanguardie del Novecento, per cui musica atonale, cosa che in realtà non è. Sentiamo, comunque... sentiamo un attimo anche Miriam, che a questo punto è lì con te, Guido. Miriam, a che punto è la, diciamo, la, il vostro sogno, la realizzazione di questo sogno? Date anche i contatti, perché voi avete lanciato un progetto di finanziamento su internet, di crowdfunding, per poter arrivare alla data in cui vi esibirete per la prima volta con questa orchestra dei precari, perché ci sono delle spese da pagare. Chi vuol sostenere questo progetto cosa deve fare? Esatto, chi vuole sostenerci può andare sul sito it.ulule.com/mginc orchestra. Domani mettiamo tutto su Facebook, lì si può fare, così siamo a posto. Sì, siccome è abbastanza lungo, per chi non avesse carta e penna a portata di mano, è più semplice cercarci sulla nostra pagina Facebook mginc, oppure andare sul nostro sito www.mginc.eu. Da qui poi ci risale facilmente alla pagina di crowdfunding dedicata appunto alla Mginc Orchestra, che attualmente questo progetto sta andando molto avanti, siamo molto felici di poterlo annunciare e abbiamo ricevuto anche un altro ingaggio, e il 2 novembre suonerà la Mginc Orchestra al Reggio Teatro Reggio di Parma con un gruppo norvegese. Oh, questa è un'altra buona notizia, noi sì. Vi seguiamo, vi monitoriamo, Guido e Miriam della Mginc Orchestra, grazie per essere stati con noi, è tutto anche per questa sera. Carlo Gabardini all'esordio a Radio 24, soddisfatto? Molto, cioè io no, dovete dire voi se sono soddisfatto, ma io mi sono divertito moltissimo. È iniziato lo stage, adesso vediamo i voti e se andrà avanti. Vi ringrazio, grazie anche molto a Riccardo Buccero, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, da Alessio Maurizio l'auguro di una buona serata, ci troviamo domani 18:20:30, l'orario si può fare, l'attualità anche d'estate.